passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. E il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte non ti... Caro Luca! Ale! È un trionfo. Di chi? Della Zanzara? Eh beh, certo. Nostro. Di Bamina. Mina, lasciate il Veneto a Morgan, perché ci sarà pure il governatore Zaia, ci sarà anche il sindaco Tosi, ma noi abbiamo Mina. Parole. Ascoltami. Lasciate il Veneto a Morgan. Hai letto, sì. Madonna, è una cosa epocale. Cioè, sei arrivato laddove nessun altro è arrivato. Vabbè, adesso non esageriamo. Mina, no, cosa ha scritto Mina? No, ma poi Mina, inarrivabile, intoccabile, incitabile quasi. Mi vergogno pure di mandare una canzone mischiata fra poco alle voci del governatore del Veneto. I depositari delle regole della purezza e della salute fisica e mentale sono esseri duri. Non ci abbiamo pensato, vedi, in diretta con Zaia dovevamo dirgli questo, ma Mina sa trovare parole, no, in maniera straordinaria, no, Luca? Depositari delle regole della purezza e della salute fisica, esseri duri. Perché non gli abbiamo rimproverato questa cosa? Non siamo capaci. Un po' gliel'abbiamo detto. Un po' gliel'abbiamo, a modo nostro, non come bambina, è più chiaro. Esatto. E poi dice: c'è una legge che impedisce ad un addizionato di lavorare? Perché poi Mina dice: io sono contro la droga mi fa schifo. Però c'è una legge che impedisce a un addizionato di lavorare? E no. Ci sarebbe un PIL ancora più ridotto dato il numero esagerato di persone coinvolte. Allora perché uno solo? Perché a uno solo viene impedito di espletare il proprio lavoro? La storiella dell'apologia dell'additivo chimico non sta in piedi. È chiarissimo a tutti, anche nel Nord-Est, che l'uomo è caduto in un trappolone. Noi della come elegante, non è che dice droga, non usa questa certo. Lingua bassa, dice additivo chimico. Noi della musica siamo delle anime candide, sereni, fiduciosi. Sì, sul trappolone ho dei dubbi, però... Però qua non si può criticare nulla. Tendiamo a fidarci delle persone, dice Mina, anche dopo delusioni cocenti. Morgan per una battuta si è giocato parecchio e non voglio entrare in faccende personali e dolorose. Stiamo sull'apparentemente leggero. Oltre a non poter cantare in Veneto, non potrà fare neppure X Factor. Mi mancherà la sua passione, la sua fiammeggiante intelligenza e il suo italiano perfetto. Peccato. Beh, adesso forse qua Mina esagera, perché per adesso è solo il Veneto. Speriamo, no, che la cosa rimanga ristretta al Veneto di Zaia e Tosi, personaggi che però, Luca, noi rispettiamo, lo sai, no? Sì, sì, speriamo che cambino idea, li abbiamo invitati a cambiare idea. Speriamo che Mina li faccia cambiare idea. Speriamo che sia Mina a fare cambiare idea al governatore del Veneto Zaia, che sentiamo alla Zanzara. Guardi, io non ho detto Morgan non potrà mai cantare in Veneto, ho detto che con queste condizioni, glielo ripeto, non è il caso che Morgan canti in Veneto, punto. Se d'amore cominciata e mai finita. Che poi è la stessa cosa, Non cambi mai. Se una persona sostiene che la dipendenza è un problema, deve essere risolta, dice io purtroppo ho questo problema, è una cosa, e questo lo fanno molti artisti e alcuni hanno avuto anche il merito poi di essersi impegnati anche socialmente. Se una persona invece dice vabbè, ma la droga è un antidepressivo, vabbè, ti aiuta quando sei stanco, cioè questo non è un messaggio positivo. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Però, caro Luca, che è in collegamento da Roma, Luca Telese, e insomma poi su Vasco Rossi inciampava un po' il presidente, il governatore. Il paragone con Vasco Rossi inciampava. Nessun paragone possibile. No, il paragone con Vasco Rossi, che insomma, faceva un'apologia anche abbastanza esplicita di un noto additivo chimico, che qui non dico, e però lui non, insomma... Ma non conosceva la canzone, non gli è venuta in mente. Ti sento mogio, 18:10. No, sono che assolutamente, come dire, rilassato dopo il Ferragosto. Che hai fatto a Ferragosto? No, sono molto colpito da questa bomba per terminare che ha lanciato Napolitano. Chi se l'aspettava? E a Ferragosto succede di tutto. E fra poco avremo, dopo le 18:30, lui Bianconi, che ha fatto scoppiare questa bomba termonucleare, come dici tu. E però ti dico subito una cosa: secondo me è sbagliato, perché l'ha detto con tutto il massimo rispetto nei confronti del Presidente della Repubblica, che il Presidente Napolitano risponda a un vice capogruppo del PDL, non so che cosa. Insomma, mi sembra francamente una cosa eccessiva. Forse non come dici? Se quello dice cazzate. Sì, d'accordo, ma insomma, basta una nota. Sì, adesso poi sentiremo se ha davvero detto così oppure no. Intanto 800 24 00 24, questa è la Zanzara, SMS 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it. Primo ospite Gioacchino Genchi, buonasera. Buonasera. Da dov'è in collegamento lei? Lei è da Roma, io sono a Milano, lei? Castelbuono, provincia di Palermo, da casa sua, dalla casa al mare, da casa di... È una casa in collina, dove sono nato. E dove risiede, immagino? No, risiede a Palermo. Risiede a Palermo, la casa in collina di Gioacchino Genchi, davanti ai computer, il suo solito computer. Dicono che lei abbia un computer Mac, o sbaglio, Genchi? Sì, c'ho anche un Mac. Anche un Mac, quanti computer ha? Anche in questo momento davanti a me due. Due, ma lei quanti ne manovra, diciamo? Uno alla volta. No, sì, d'accordo, ma quanti ne ha in casa? Parecchi. E ce lo può dire così, in linea di massima, 2, 4, 5, almeno, più di 10 o meno di 10? In casa mio figlio usa il computer, mia moglie usa il computer, quindi ne abbiamo diversi. Qualcuno è dedicato ai servizi multimediali, alla TV. E in ufficio invece? Beh, in ufficio sono ciascun collaboratore ha il suo. Ah, il suo. Vabbè, no, ma era una curiosità, no? Una curiosità su quanti computer lei usa per lavorare. Meno di 10 o più di 10? Più di 10. Più di 10? Cioè, lei personalmente o tutti i suoi collaboratori? No, io con i miei collaboratori. Con i suoi collaboratori. Va bene, caro Luca, qui noi vogliamo sapere che cosa. Vogliamo sapere... C'è l'iPad che sta facendo un po' a gara col computer. Ma... Ah, si è comprato pure l'iPad, come me? Sì, sì. Ritengo uno dei prodotti tecnologici più evoluti. Beh, Luca, qui abbiamo Genchi che ha l'iPad, una mezza notizia. Come te, come me. Ti sorveglia. Anche tu fra poco comprerai l'iPad, dato che hai l'iPhone. Sì, ho l'iPhone. All'iPhone, adesso passerei all'iPad. Qualcuno non pensa che non sono alternativi. No, non sono alternativi. No, no, no, sono... vecchi muletti della Nokia. Sono sempre quelli più che funzionano meglio. Ma anch'io ho l'iPad, Genchi, come va il suo iPad? Beh, devo dire che è una svolta. 30 anni che mi muovo fra le tecnologie, non ho mai visto un prodotto così evoluto, così sofisticato, così completo e devo dire anche così bello. Bello sicuro. Ma lei lo usa di più a casa o se lo porta fuori? No, lo uso ovunque, perché c'è un collegamento anche con la TV che remotizzo da casa. Cioè, non mi spieghi questa cosa, adesso non stiamo facendo pubblicità all'Apple, non ne ha bisogno, per carità. Però ecco, perché c'è Sky TG24, ma lei che collegamento fa anche con la televisione? A parte sento la vostra radio, quindi sento le sue trasmissioni. E questo la ringrazio. Li sento anche con l'iPad. Poi Sky TG24 c'è un abbonamento che costa anche poco, tra l'altro che consente vero, online direttamente sia i telegiornali che la diretta. E poi c'è un collegamento che si realizza con un semplice accessorio che costa sui 100 euro, che si collega al PC e si collega all'antenna del digitale terrestre, che è in condizioni di registrare e vedere due programmi contemporaneamente, quindi poter registrare ad esempio tutti i notiziari regionali siciliani del TG3 che io non riesco a seguire quando sono in giro per l'Italia, e poterli anche vedere in remoto quando si vuole. Comodamente sull'iPad con una connessione DSL o anche con la semplice connessione UMTS con la schedina. Capito Luca, qui si apprendono delle cose fantastiche. Uno dovrebbe intervistare, Gianchi su queste cose qui, non sulle cose di sui segreti della Repubblica, però su quelli torniamo. Se lei lo fa per non farmi dire altro, possiamo continuare. No, si figuri, lei ci conosce, noi la prendiamo sempre alla larga. Per preparare gli ascoltatori, l'attesa. Per il culo comunque. No, chi piglia per il culo? No, noi non pigliamo per il culo nessuno. Ogni tanto pigliamo per il culo. Comunque lei, devo dire che ha fatto una performance per quanto mi riguarda, se non altro per l'interesse che ha dedicato alle vicende nelle quali ho lavorato molti anni fa, le indagini sulle stragi. Ha evitato abilmente di citarmi, però devo dire che ma non sono stato io, molto avvicinato alle mie posizioni. Sono stati i miei collaboratori. Spione, da grande intercettatore. Si figuri, Gen, che io volevo fare una puntata solo su di lei, ma non alla fine ha fatto l'outing. Però, io volevo fare una puntata solo su di lei. Io però l'ho sempre stimato come giornalista, anche quando parlava male di me, perché questa io ho parlato anche male di lei, sì, è vero. Ma guarda, male, non ho parlato male, ho detto che vabbè, alcune cose. Una delle cose più belle che ho assistito come giornalista, senza offesa per lei, per la mia per carità. Che apprezzo tantissimo, che è Bordin, che seguo da ragazzo nelle sue trasmissioni a Radio Radicale, dove peraltro lei ha pure iniziato, che ritengo uno dei monumenti del giornalismo dell'informazione italiana. È stato bellissimo quando mi ha invitato alla presentazione del libro con Pannella e ha esordito. Io prima di leggere il suo libro pensavo di lei le cose peggiori che si possono pensare. Questo chi l'ha detto? Pannella o Bordin? No, l'ha detto Bordin. Con Pannella è stato ad altissimo livello l'incontro, se vogliamo anche lo scontro, perché rimane uno dei veri e pochi politici puri. Che comunque guardi, la prima, la seconda Repubblica, e secondo me potrebbe essere traghettato nella terza. Comunque Gianchi, il fatto è che il confronto è sempre il sale di tutto, no? Per cui uno può avere idee diverse, ma è importante confrontarsi. Nel senso, ho notato che comunque lei è un giornalista libero, quindi secondo me non lo ha fatto perché è prezzolato, perché è stato pagato per fare il killer, ma ha avuto una serie di informazioni che l'hanno portato a sostenere le cose che ha sostenuto. Io l'ho ascoltato e ho atteso in silenzio. Io ho sempre confidato più di tutti nell'intelligenza umana, non potendo confidare nella misericordia di Dio, perché insomma quella credo più al fato che a queste cose, però sull'intelligenza umana io ho sempre fatto grande affidamento, e quando si è persona intelligente, si è uomini liberi, prima o dopo si finisce per, se non altro per ragionare in maniera razionale. Poi magari la maschera pirandelliana che ciascuno di noi porta nella vita, per il lavoro che fa, per le appartenenze, per le esigenze che ha, non gli consente sempre di dire quello che pensa, però certamente un uomo intelligente rimane sempre la cosa importante è sempre l'onestà intellettuale. Ma qui abbiamo il traffico e dopo andiamo alla ciccia, vero Luca? Ci siamo dilungati troppo, però mai troppo. Pirandelliani magari, ma lunghi mai. Eccoci, collegamento da Roma con Luca Telese, con provincia di Palermo, con Gioacchino Genchi. Qui voglio chiedere subito, ma lei è davvero convinto che ci sia dietro tutte queste rivelazioni, non solo le rivelazioni ultime sulla vicenda Tulliani, ma anche altre, caso Marrazzo, caso Boffo, poi lei ha citato in un'intervista all'Unità anche il caso Sircana, ci sia un network informativo che si avvale di 007 ma che è guidato da una personalità, da una sorta di burattinaio? Esiste questo burattinaio? Beh, esiste un comitato ristretto, più che un burattinaio, esiste un'agenzia di servizi che ha sempre pronto e confezionato il prodotto che il potente di turno ha bisogno per cercare di colpire il proprio avversario. Ma qual è il filo rosso che tiene insieme tutte queste situazioni diverse? Cioè, insomma, se lei segue con attenzione dietro le quinte, legge in controluce l'agenzia che ha pubblicato, che ha diffuso le foto di Sircana, anche il modo come sono state procurate, poi anche l'outing, le confessioni, lo stesso Berlusconi ha affermato, insomma, di avere chiamato Marrazzo prima, mi hanno recapitato un filmato, questi filmati, questi messaggi, questi scoop che arrivano puntualmente alle testate gossip dell'attrezzatura, diciamo, dell'artiglieria pesante di cui Berlusconi si avvale per colpire gli avversari con i giornali di famiglia, con le proprie testate. Dunque Berlusconi, quando lei parla di network informativo che si avvale di 007, anche di 007, dietro tutto questo c'è Berlusconi. È chiaro che il primo fruitore, come direbbe Ghedini, è l'utilizzatore finale. E dunque, però lei non può dire solamente il fruitore, ma è anche l'organizzatore, cioè, mi spieghi come... Il concetto, guardi, di organizzazione ritengo di no, perché ritengo che questo stesso network, questa stessa... gruppo che si occupa di procurare questi gossip, non escludo che prima o dopo possa agire anche contro di lui, quindi si tratta di persone senza scrupoli che fanno questo lavoro per mestiere e che trovano spesso degli spazi. Lei dice per il potente di turno, sanno che servono che servono alcune cose a Berlusconi, dunque in questo caso Berlusconi è il fruitore, però non, diciamo, il capo di questa sorta di network. Ci sono politici e uomini di governo che hanno sempre messo alla porta questi soggetti, queste figure, altri che se ne sono avvalsi. E Berlusconi storia, invece? La che storia poi... è piena, diciamo, sì. Da Pecorelli, dai dossier del generale del SIFAR, vicenda De Lorenzo, insomma. E Berlusconi che rapporti ha con queste persone? Cioè li accoglie, certo non li mette alla porta secondo la sua... Se consideriamo alcuni innesti ben precisi che ha fatto anche nei servizi di sicurezza, insomma devo dire che queste persone abbiano avuto ampia ospitalità nel suo governo e nelle strutture, diciamo, che sono state... Sì. Create, diciamo, da questo governo. Caro Luca, a me mi affascinano le teorie di Genchi, no? Però, ma non sono teorie, guarda. No, teorie, ecco, un attimo solo, torno subito da lei. Genchi. Siamo con nome e cognome. Appunto, è quello che voglio sapere, perché Luca, il punto è questo, io parlo di teorie perché... Però sono ipotesi. Sono ipotesi, poi lui parla di network. A meno che lui non dica qualcosa di più di quello che ci ha detto, cioè, potrebbero essere vere, però quando si dice una cosa così bisogna avere, come vedete, gli elementi per sostenerlo. Quando si parla di network... Sta dicendo Berlusconi usa i servizi per fare battaglia politica, è questo? Beh, guardi, se consideri... torniamo alla vicenda Marrazzo, così magari è più... è un dato assodato, un dato storico, che Berlusconi ha avuto prima della diffusione... nella stampa in assoluto, per primo, per quella che è la catena che è stata ricostruita, la disponibilità o l'offerta di quei filmati. Questo è già aspetti Genchi, la sentiamo se male, se torniamo indietro alla vicenda Boffo, quando sì. Il giornale cattolico inizia a prendere una serie di posizioni sulla morale, contestando certe scappatelle di Berlusconi eccetera, inizia l'aggressione a Boffo. Viene fuori un fatto storicamente vero di una condanna di decreto penale. Sono cose diverse, dice Telese. Cioè... E sul caso Marrazzo, basta leggere l'editoriale di Giordano del 16 agosto dell'anno scorso, quando, mi dispiace ma devo dire addio, quando dice che non si vuole occupare di ciò che accade nelle alcove. Vuoi che si tratti di un ingegnere, vuoi che si tratti di un cavaliere, quindi fa capire che la disponibilità di informazioni e quindi di notizie riservate... Non riguardava solo Boffo, ma riguardava anche altre persone. Senta, anche dietro questa vicenda di Tulliani, secondo lei c'è lo zampino, non so, dei servizi, di questo network? Questa va letta, secondo me, in maniera diversa, perché intanto lì non è che ci fosse un grande bisogno di servizi. È chiaro che il patrimonio, il tesoro di Alleanza Nazionale è rimasto appannaggio di coloro che facevano parte di quel partito, che adesso stanno un po' da una parte e un po' dall'altra, quindi determinate informazioni su alcune transazioni, su alcune vendite di immobili, penso che erano dominio comune di persone che appartenevano comunque al vecchio partito di Alleanza Nazionale. In questo Berlusconi è stato bravissimo, perché ha comprato, diciamo, ha acquisito i deputati, ha acquisito, diciamo, il marchio, ma ha lasciato loro il patrimonio, quindi è rimasto loro. Quindi a questo punto se ne è fatto un po' quello che hanno voluto. Io escludo personalmente, così anche a livello di intuizione, di decisione, che Fini possa macchiarsi di qualcosa che possa riguardare comunque trarre profitto. Questo, si può dire tutto quello che si vuole sul piano politico, delle scelte che ha fatto, degli errori, dei meriti, tutto quello che si vuole, ma non è una persona che può fare qualcosa per denaro che miri a... Senta Genchi, ultimamente alcuni esponenti di Futura Libertà, tra cui Briguglia, hanno parlato di servizi segreti che li spiano, che cercano informazioni sui Finiani, è così secondo lei? Ma perché, scusi, quello che è accaduto nella vicenda che mi riguarda, con tutte quelle montature fantasiose, i ipotizzare addirittura reati che non esistono, acquisire tabulati di agenti dei servizi segreti, poi se ci fa caso tutti questi soggetti che stanno venendo fuori ad uno erano tutti quelli che in gergo vengono chiamati i bersagli dell'indagine Wayne. No. Però ho capito, ma esiste secondo lei una parte dei servizi guidata non so da chi che no, guardi, spia i finiani per prendere informazioni su di loro? No, sono soggetti che hanno certamente nei servizi di sicurezza degli approdi importanti, non si tratta di un coinvolgimento dei servizi sotto il profilo della ufficialità, dei vertici dei servizi di sicurezza che sono retti da persone che hanno la loro storia. Che io hanno ho parlato parte. Di pezzi di servizi, infatti, pezzi di servizi che non si capisce. Quando si parla, vedi Luca, il problema è che quando Per accedere a certe informazioni, veda, sì. Per avere determinate informazioni, per poter diciamo entrare dove un soggetto qualunque non può entrare, occorre essere dei soggetti qualificati, occorre appartenere a particolari istituzioni, a particolari organismi. Quindi certe facoltà, certi accessi. Per quanto riguarda le banche dati, ce l'hanno solo alcune persone telefoniche e ce le hanno solo determinati soggetti. Un giornalista può fare una bella inchiesta consultando gli archivi dei giornali, le agenzie, la Camera di Commercio, il Catasto, può anche stare dietro una casa, aspettare che esca la persona che sta seguendo, può fotografarlo, può fare tutti i gossip possibili, però non può accedere a delle informazioni sensibili che riguardano anche movimenti finanziari, dati bancari, eccetera. Ci sono dei soggetti all'interno degli apparati istituzionali che hanno una grossa capacità di farlo e di acquisire delle informazioni. Però lei dice nel caso Tulliani tutto questo qua non c'entra nulla, invece c'entra... No, nel caso di Tulliani la vicenda della vendita della casa è un fatto notorio all'80-90%. Dunque si può dire che quella è un'inchiesta giornalistica e non fango? Si può dire che quella è un'inchiesta giornalistica e non fango? No, poi anche la signora Tulliani, insomma, storicamente diciamo, cioè, c'è l'intervista del suo ex marito, ma insomma, anche per alcune acquisizioni che in passato negli anni scorsi mi è capitato di fare, certamente aveva anche una serie di rapporti, di conoscenze con persone che oggi potenzialmente potrebbero essersi prestati anche ad aiutare diciamo questa. No, mi spieghi questo passaggio, per alcune acquisizioni che lei ha fatto, la signora Tulliani? No, nell'ambito di alcune indagini insomma erano emersi sia Gaucci sia il fratello, sia la signora, parliamo di contatti indiretti, non parliamo di indagini su sì. queste persone, intendiamoci. Sì. E allora in questi contatti che cosa era emerso? Beh, insomma, certamente degli ambienti a rischio, ad alto rischio, perché è chiaro che è una persona che all'interno diciamo di questa compagine che adesso si è spaccata, che sta andando l'uno contro l'altro armati con attacchi continui, conosceva prima di Fini o durante la conoscenza con Fini, conosceva anche persone che sono rimaste dall'altra parte, quindi è chiaro che... Ma conosceva che queste persone possono avere preso informazioni su di lei o sulla sua famiglia? No, già intanto potevano averle le informazioni direttamente, e già qualcuno è pure uscito con qualche intervista, con qualche scoop, c'è D'Agostino, D'Agospia, che sta fornendo ogni giorno, diciamo, un'alternanza, sì. Si alterna magari... fa una pausa di un giorno nei giorni di Magra quando la gente è al mare e poi ritorna un giorno con Sgarbi, un giorno con Gaucci, adesso vediamo insomma tra domani e dopodomani, però ora c'è un po' di attesa, se lei ci fa caso sono tutti sì è vero in queste ore sono in guardia, questa cucina che non spunta né da una parte né dall'altra. Ma secondo lei questa cucina dov'è? Beh guardi, a me sta storia della cucina sinceramente mi fa ridere intanto, io la leggo per i dati che possono essere letti obiettivamente, a cominciare dal rogito della casa, dalle date, dai dati che per me sono dati oggettivi, certi, compreso l'acquisto cioè? Della cucina. Intanto che Fini vada a comprare una cucina e compri una Scavolini, che è una cucina nazionale popolare, lo ritengo un fatto che fino ad oggi gioca solo a suo favore, perché certamente non se l'è fatta fare da Anemone, dai falegnami di Anemone, come è accaduto. Vabbè, ma questo è buono. Autorevoli esponenti di Giuseppe. No, questa è buona, per carità, ma guarda che... Compra una Scavolini. Ora, compra una Scavolini per 4-5 mila euro, mi pare che sia il costo della fattura. Se lei considera quello che è il trasporto, il costo del trasporto, se avesse comprato la cucina a Roma per trasportarla a Monaco, non capisco perché una cucina Scavolini, che non è una cucina esclusiva, è una cucina che si può comprare sotto casa in qualunque negozio, in qualunque. No, però su questo non sono d'accordo, Genchi, lo sa perché? È comprata a Roma, pagandola peraltro a un prezzo, mi sono informato con un mio amico che vende mobili per vedere se gli hanno praticato degli sconti, assolutamente, non l'hanno quasi fregato, mi ha detto, non gli hanno fatto nemmeno un prezzo di rispetto. compri una cugina a Roma, fuori Roma, a qualche chilometro dal raccordo, per spendere di trasporto quanto gli è costato il costo della cugina per portarla a Monaco. Io ritengo che sarebbe stato... Ma no, ma il trasporto a Monaco costa 300 euro, Genchi. Il trasporto a Monaco costa 300 euro. Costa molto meno. In realtà è comprensibile, se fosse a Monte Carlo, non lo so, è un'ipotesi, che uno compri una cugina sotto casa dove conosce il mobilificio, conosce il negozio, lo fa trasportare per te 200, 300, 400 euro a Monte Carlo, dove le cugine in realtà costano molto di più, uno non parla il francese, non sa, eccetera. Era mai successo di non trovare un cesso? Mi son cagato addosso a Monte Carlo. Merda non finire, puzza da impazzire. Mi sono impiastrato tutto a Monte Carlo. Caro Luca! Una versione italiana! Una versione italiana! Ma no, in realtà lo sai che Nanni Svamp era furibondo venerdì. Non è lui! Lui dice, dice che non ha mai cantato questa canzone. È un gruppo, che si chiamano i Gufi, forse, perché ancora non è certo. Sempre milanesi, anni 60. Tra cui un autore, cantante che si chiama El Pinza. È possibile che siano manovrati anche loro? Possibile anche questo. Però la versione italiana è fantastica, eh. Senti. Corri in riva al mare, era un fatinoir. Fatinoir de mer, naturalement, a Monte Carlo. Allora, caro Luca, ripeto, le cose che dice Genchi mi affascinano molto, però quando lui parla di network informativo che agisce anche indipendentemente dal potere in questo momento, diciamo, costituito da chi è al governo, io sono sempre, per carità, capisco poi le prudenze e tutto, uno non è che può dire tutto quello che sa, altrimenti succederebbe un gran casino. Però, insomma... vogliamo cercare di dare qualche nome e cognome a questo network informativo, o no, Luca? Credo che ci sia bisogno, quando, a un certo punto, quando uno fa un'intervista e dice c'è un network informativo che si avvale di 007, la gente, non lo può fare. La gente rimane così un po' spaesata, no? Non lo può fare, dici te, non può fare. Purtroppo sono cose che si scoprono 20 anni dopo, se si scoprono, altrimenti non si scoprono mai. È banale, ma è così. Credo che sia interessante. Aspetta che ti sentiamo male. Però voglio sapere, in tutto questo, cosa c'entra Tremonti, Genchi? Secondo lei anche Tremonti fra poco verrà dossierato? Così leggo da una sua intervista all'Unità. Mi spieghi un po' questa cosa? No, quella era una battuta. Se Tremonti dovesse essere il prescelto, diciamo, di questo governo tecnico, di questo governo di mediazione, questo governo ponte nel tentativo di ricucire all'interno del centrodestra, non è escluso che Tremonti possa diventare oggetto e bersaglio degli stessi attacchi di Fini, magari in versione diversa. Era questo il senso, diciamo, di quella battuta. Poi Telese l'aveva chiesto anche alla Santanchè qualcosa, ma la Santanchè, a quanto pare, alla sua domanda ha fatto finta di non capire o di non sentire, insomma. Senta, invece il misterioso chiappe d'oro dello scandalo Marrazzo, no? Verrà mai fuori, secondo lei, se esiste? Secondo lei esiste questo chiappe d'oro oppure un'invenzione? Il chiappe d'oro oggettivamente dovrebbe esistere, perché la definizione non è giornalistica, ma proviene, diciamo, da un dato che viene fuori da quelle indagini. Indagini, peraltro, in una certa fase che abbiamo incrociato con un'altra indagine con la Procura di Roma, con la squadra mobile su mega traffico di droga nella Roma bene, dove io per primo scrissi sul conto di quel maresciallo dei carabinieri che poi si è regalato della stazione della vicenda Marrazzo. Sì, sì. E lei ha un'idea di chi sia questo chiappe d'oro? Bah, guardi, sono talmente tanti quelli su cui ci sarebbe da pensare, insomma, gente che si perde per strada. Ma era un politico o no? Di chi si parlò, Telese, per chiappe d'oro, te lo ricordi? Guarda, si fecero tanti nomi, ma nessuno con ci fu la famosa operazione di Sartini, che ogni tanto viene messo in mezzo, qualcuno parlò di sbarri che però rispose, come sai, con la mitragliatrice in mano, a proposito di quella sua famosa vicenda in cui si era smarrito mentre andava a una festa dalla parte dei circoli sportivi sul Tevere. Insomma, si sono fatti tanti nomi, si è data quasi, ma nessuno poi in realtà ha avuto un benché minimo appiglio di prova di verità. Allora, Genchi, però io in conclusione vorrei sapere questa cosa qui. Quando lei, davvero vorrei tornare alla domanda iniziale, quando lei parla di network informativo che si avvale di 007, vorrei capire se è un qualcosa di strutturato, cioè network informativo chi sono? Giornalisti, direttori di giornali, uomini? No, quelli sono i terminali. Beh, guardi, io posso parlare per esperienza personale, cioè da come è nato il killeraggio nei miei confronti, con un'anticipazione del velino che ha buttato il fuoco, dalla pubblicazione sincrona della stessa notizia su due testate, Calabria Ora e un articolo sul giornale La Stampa. Notizia che altri giornalisti hanno avuto, compreso il Corriere della Sera, e che non hanno voluto pubblicare. E da chi veniva quella notizia? Tanto per capire chi era. Quella notizia veniva sicuramente da soggetti che erano all'interno delle aziende telefoniche che avevano notizia delle acquisizioni dei tabulati con cui poi fu creato il cosiddetto caso Genchi. Ma questo network informativo? Poi immediatamente ci sono state una serie di articoli ben precisi sul Libero, Farina, sul giornale, su Italia Oggi. Quindi sono venuti fuori a uno tutta una serie di soggetti che hanno finito per confermare quello che era il raccordo perfettamente organico in una serie di mistificazioni che furono fatte, creando e ingigantendo la notizia. Nel caso Tulliani, per ripetere. Nel caso Tulliani la vicenda è leggermente diversa, perché. Ma esiste questo, è in azione in questo c'è network? C'è una notizia vera, c'è l'esistenza di una casa a Monaco, c'è una vendita di questa casa, c'è il fatto che questa casa sia stata abitata e utilizzata di recente dal fratello della Tulliani, quindi si tratta di una serie di circostanze vere. Cioè, secondo lei Genchi l'imbeccata sulla esistenza dell'appartamento l'ho data qualche ex DAN? Da sì, secondo me la notizia parte da fuoco amico, ex amico, e poi le acquisizioni successive con tutto quello che si scatena che lasciano pensare a questo network, però nell'uscita diciamo. E quali sono? Notizia, quali sono le acquisizioni? Qualcuno ha parlato per esempio del ruolo, secondo me sbagliando, io tra l'altro conosco bene la famiglia, del ruolo di uno dei due giornalisti autori dell'inchiesta, che anche lui conosce. I giornalisti autori dell'inchiesta sono solo dei professionisti che fanno il loro lavoro, sono anche bravi, quindi su questo poi si può dissentire, è chiaro che fanno il lavoro per conto di una testata, di una proprietà che è quella che è, ma sul conto dei giornalisti. Però il materiale da chi arriva? Io penso che arrivi anche solo esclusivamente da loro, invece secondo lei no? No, i giornalisti certamente sono bravi, il materiale se lo sanno procurare, su questo non si discute, non accetto nemmeno qualcuno ha fatto il riferimento al fatto che Malpica sia il nipote cioè io penso che anche al SISD di Malpica non ci sia più niente se non il ricordo di uno dei periodi neri, insomma. Non dico i più neri perché purtroppo quando si parla di servizi segreti non si può utilizzare mai il più nero, perché man mano che si va avanti si scopre che c'è sempre un periodo più nero di quello che si pensava fosse più nero di prima. E quindi questo lo escludo. Si tratta di due giornalisti bravissimi che hanno scritto anche contro di me, ma io sul fatto che siano dei giornalisti bravi non è dubito, la stessa per cosa cui imbeccata, vale per lei, vale imbeccata da ex di AN eccetera, poi no, nel proseguo ci sono alcuni passaggi di questa vicenda, compreso come viene fuori il soggetto, il dipendente della ditta, come viene fuori, che lasciano diciamo pensare, come viene fuori anche la ricostruzione dei rogiti quindi questa accuratezza che certamente presuppone la consultazione di archivi, di banche dati, quindi di acquisizione. Che un aiutino ci sia stato, diciamo, un aiutino. Io penso che qualche aiutino ci sia stato, però mi lascia pensare una cosa, questo è importante, cosa? Questo è l'effetto politico del boomerang, sì, che poi insomma vediamo con le ultime esternazioni del Presidente della Repubblica che rappresentano. Ne parliamo tra poco, piano, ne parliamo tra pochissimo. Che rappresentano sul piano costituzionale. Allora resti un attimo lì, Jackie, un attimo lì. 18:42, 800 24 00 24. Maurizio Bianconi, buonasera. Buonasera a voi. Eccoci qui, Luca. Fai la prima domanda a Bianconi, che ha provocato un mezzo pandemonio, o lui o Napolitano, chi l'ha provocato il pandemonio qui? L'ha provocato lui, perché secondo me, forse anche pensando che si era testato un'intervista al giornale, ha sottovalutato la forza di quello che ha detto, e secondo me, lo dico in termini brutali, Bianconi, così lei mi risponde, secondo me lei l'ha un po' fatta fuori dal vaso, perché accusare il Presidente della Repubblica di tradimento mi sembra eccessivo. Finge di rispettare la carta, ma la tradisce. Qui stiamo prendendo non dal titolo, ma dal virgolettato proprio, sta tradendo la Costituzione. Intervista a Paola Setti. Allora, Bianconi. Con chi ho parlato io prima? Con Telese, e poi sono io. Ah, Cruciani. Luca Telese. Sì. No, non è che l'ho fatta fuori dal vaso. Siccome Luca Telese fa il giornalista, sa come vanno certe cose. Io ho detto e ribadisco, e sono convinto di aver detto il giusto, il seguente concetto. Quando Berlusconi ha vinto le elezioni, Napolitano ha fatto delle consultazioni sprint, l'ha chiamato, sono riusciti, avevano i ministri già fatti, e il presidente Napolitano correttamente ha spiegato, guardate che con questo sistema c'è una maggioranza che vince e una minoranza che perde, la maggioranza ha un programma e ha un leader segnato sul simbolo. La scelta del mio incarico è pressoché vincolata. Cosa ha fatto in questo modo Napolitano? Ma questo in termini tecnici, non politici. Ha dato avvio a una nuova prassi, tanto quanto se dobbiamo risalire a prima, le prassi sono state varie e lui ha dato una nuova prassi. Però questa prassi, Bianconi, mi scusi, è in vigore in realtà da un sacco di tempo, non è che l'ha rinnovata Napolitano. No. Lui l'ha sanzionata nella rapidità e l'ha dichiarato per primo. Allora, questa è una sua interpretazione personale. Ma questa è una sua interpretazione personale, Bianconi. Parla di cose sulle quali siamo tutti documentati, lo sarà anche lei. Ed è stato notato da tutti che ha installato in maniera determinata una nuova prassi, che non è una prassi tanto per fare, è una prassi costituzionale. Ma guardi, veramente, Bianconi, questo fatto che Napolitano, chiamando Berlusconi in 2-3 ore e risolvendo e dando l'incarico in maniera veloce, abbia instaurato una nuova prassi costituzionale, questo lo sento per la prima volta. In realtà fa molto male. Ma quella non ha detto per la prima volta, perché è una cosa. Un attimo solo, Bianconi, un attimo solo. No, mi scusi lei. È stata detta e ridetta, ma è stato oggetto anche di molti interventi alla Camera dei Deputati, di colleghi miei anche. Ma questo può darsi, comunque lei ha detto un'altra cosa, come dice Telese, lei dice in maniera chiara, scusi perché il sì, concetto sì, dica, va dica, definito, dica. Che con questa legge elettorale così funziona, se la maggioranza non ha più la fiducia in Parlamento, non è che una cosa può valere in andata e non può valere in ritorno, deve valere in ritorno, perché se no saremmo in tema di incoerenza istituzionale. Cioè, mi scusi. Ma queste sono cose pacifiche, non sono cose astrali, è pacifico che è così. Scusi, Napolitano. Poi lui può scegliere di fare diversamente se ne assume intera la responsabilità. Scusi, ma quale sarebbe il tradimento? Mi scusi un attimo, Bianconi. Innanzitutto voglio sapere da lei, prima del traffico, se vuole, se ha intenzione di chiedere scusa al Presidente della Repubblica oppure non c'è bisogno. L'ho già fatto, nel senso che ho fatto una nota che è in tutte le agenzie e gli ho detto che il linguaggio giornalistico è sicuramente sbrigativo e quella parola non ha il significato pregnante che gli si è voluto dare, basta leggerla, ce l'ha davanti l'intervista, sì, la legge, certo. E capisce cosa vuol dire. Lei non parlava di tradimento. Ma il tema non è questo, il tema è la sostanza del discorso. Ma come non è questo? Lei ha detto tradimento, scusi, lei ha detto tradimento, ora molto correttamente dice di aver sbagliato, se dice questo siamo d'accordo. Non ho sbagliato per niente. E lei ha detto ha tradito la Costituzione, ora ci parla di prassi. Tradisce la Costituzione, meglio, tradisce se stesso. Ho capito, allora... anzi l'interpretazione che lui ha dato della Costituzione. Allora non può, allora non, perché dice torna però indietro? Perché il linguaggio giornalistico è stato sicuramente forte, ma io trovo francamente singolare che in mezzo a il linguaggio giornalistico dicono, lei ha detto no, non deve mettere le magliette delle squadre in campo, che non doveva dare l'intervista all'Unità, che rimane un comunista di sempre, cosa che io non mi sono mai sognato. Ma infatti nessuno gli attribuisce. Lui si attacchi a questa frase, a questa parola, secondo me il problema è il contenuto di quella. Cioè, il contenuto è veramente serio. Lei ci sta dicendo, Napolitano si è attaccato a questa frase, ha sbagliato ad attaccarsi a questa frase. Non è che ha sbagliato, rilevo che ha fatto una cosa completamente sproporzionata rispetto all'evidente senso che aveva la frase, e rispetto invece alla serietà del contenuto dell'articolo. Dunque ha sbagliato Napolitano e lei invece non ha sbagliato, questa è la sostanza. No, io non ho sbagliato nel senso che mi hanno fatto l'intervista e io ho rilasciato l'intervista, poi se il giornale colorisce a suo modo io non mi sento certo di smentirlo. Ma non mi sembra che abbia colorito. Però se doveva essere solo per quello, e se doveva essere solo per quello in un'intervista secondaria, i modi sono molto altri, se non una comunicata eclatante come ha fatto. Avrà avuto i suoi motivi, io per quello ho chiesto scusa, per la frase, per il sostantivo, ma sicuramente non per la sostanza di quello che ho detto, sul quale io sono convintissimo. Scusa per il sostantivo, non per la sostanza. Nulla. Siamo qui 18:49 800 24 00 24 in collegamento con, non so dove si trovi, Bianconi, dove si trova lei? Forte dei Marmi. D'altra parte la politica è in vacanza e i deputati hanno le loro fedi. Ma io risiedo qui. Ah, lei risiede a Forte, dunque sì. A casa sua? A casa mia. Senta Bianconi, io non ho capito perché, in che cosa ha chiesto scusa allora? Su che cosa ha chiesto scusa al Presidente della Repubblica? Sulla entità e sulla pesantezza del sostantivo per come è stato preso. Qual è il sostantivo? Qual è il sostantivo? L'ho detto e detto tradimento, in maniera la dica esplicita, quella parola, non, tradimento. Non con quella pesantezza lì, perché io non sono né uno che ambisce alle prime pagine né ritengo di essere un deficiente. Ho capito, però lei tradimento l'ha pronunciata la parola tradimento, l'ha detta certo, al giornale. Ma l'ho detta nel discorso, certo che l'ho detta, però se si fa l'analisi di quello che ho detto mi sarebbe detto piaciuto questo. Che fosse stata fatta l'analisi di quello che c'era dopo, sulla prima e sulla seconda osservazione. Ma quando uno dice tradisce la Costituzione, silenzio totale. No, ma che silenzio? Quando uno dice tradisce la Costituzione, insomma, adesso al di là poi della spiegazione del perché la tradisce. È come dire a un maestro che è un pedofilo. Che cosa c'è di peggio di dire a un Presidente della Repubblica che tradisce la Costituzione? Io l'apprezzo perché lei è molto bravo. Era bravo quando scrive nel giornale, è bravissimo quando scrive sul Fatto, è bravissimo alla televisione. Che lei abbia idee diverse dalle mie. No, e che abbia il coltello dalla parte del manico. No, ma le dico una cosa. Io sarei più contento se lei dicesse un attimo solo l'esempio del maestro pedofilo. Un attimo, Luca, un attimo. E del Presidente della Repubblica che tradisce la Costituzione nel senso che l'ho detto io. Dire specioso è poco. Dire specioso è poco. Ma cosa se vuole argomentare, continua a argomentare, io la sto a sentire, insomma. Qui non si deve far finta di non capire qual è il problema. Il problema è un altro. Il problema è deve o non si deve far fuori Berlusconi attraverso un gioco parlamentare. Sì, però quello è un problema politico di cui si discute. Va bene Napolitano. Se no, dico bene io, perché il problema poi la sostanza è questa. Secondo lei Napolitano vuol fare... Il senso comune che il Presidente della Repubblica si preoccupi di un'intervista in quinta pagina, tre colonne basse... Ma che vuol dire? Lei faccia tutto questo ambaradan per una parola, sfuggendo completamente contenuto. Dunque una reazione esagerata da parte di Napolitano. Ma era esagerata, ha tirato fuori l'articolo 90 della Costituzione, siccome a scuola ci siamo andati tutti, le lauree ce l'abbiamo in parecchi, insomma, mi sembra che sia il mio, io avevo pisciato anche fuori dal vaso, ma il mio è piccolino, il suo è grande, mi pare che l'abbia fatta di fuori anche lui, insomma. Ah, ecco qua. Secondo lei l'ha fatta fuori anche Napolitano? Perché Napolitano l'ha fatta fuori dal vaso. Tirato a una mosca col cannone. Si può anche fare, ma evidentemente l'obiettivo è altro. E qual è l'obiettivo? Ah, non lo so io, siete tanto intelligenti voi. L'obiettivo di Napolitano io è altro. Non lo so proprio, ma evidentemente c'è qualche altro obiettivo. Guardate la pesca qual è. Valutatelo voi. Berlusconi, qual è? Posso dire solo una cosa? Non lo so qual è, non mi interessa. Però non, frazione e reazione non c'è assolutamente la minima proporzione, quindi vuol dire che c'è qualcos'altro. Mm. Luca, però non può restare così nel vago, Bianconi, qualcos'altro cosa? No, ma io volevo... Io sono solo vicepresidente del gruppo alla Camera, ho qualche incarico nel partito, non ho la tastiera delle cose come le avete voi, forse ve lo immaginate meglio voi. Luca, tu che dici? No, ma io dico che l'onorevole Bianconi, se vuole, può anche dire che il Presidente della Repubblica tradisce la Costituzione, noi non siamo dei talebani e quindi riconosciamo a lui la libertà di opinione, però se lo dice poi non può dire che proprio quella parola si è sbagliato, che Napolitano ha esagerato ad arrabbiarsi. Ha esagerato ad arrabbiarsi, secondo me sì, perché l'articolo va letto nel suo contesto, è in un giornale che non è notoriamente il massimo dell'equilibrio come il suo Telese, sono giornali leggermente schierati entrambi, insomma, fanno del loro meglio tutte le mattine. Contano le sue parole. Quindi voglio non dire, dia la colpa al giornale, anzi, sono una collega molto seria e io sono sicuro che le ha fatto un'intervista se l'avesse lineare, scritto pane bianco sul Corriere della Sera, forse, con un bel fondo, ma non in quelle condizioni, insomma. C'è modo e modo, insomma. Ma guardi, veramente il titolo era finge di rispettare la carta ma la tradisce, lei alla prima riga dice sì, sta tradendo, certo, Giorgio Napolitano sta tradendo la Costituzione. La risposta del giornalista, che poi se l'è costruita tutta da solo, perché in realtà quello io l'ho detto in fondo e lui l'ha messo in cima, ma non intendo minimamente denegare il contesto è il seguente: se Napolitano, nel momento nel quale a questo governo manca la fiducia, fa consultazioni parlamentari e inventa un governo per cui la minoranza diventa maggioranza, sicuramente la Costituzione la tradisce. Anzi, perché questo non l'ha mai detto? Tradisce la prassi costituzionale da lui stesso asseverata ed istituita. Su questo io ci firmo 2000 lettere. Ho capito, ma questo lei ribadisce esattamente quello che ha detto. Perché ha chiesto scusa a Napolitano allora? Non ho capito. Perché non c'è scritto, non c'è un condizionale, non c'è un se, quindi non c'è... nella frase in sé il senso è chiaro, ma nella frase in sé ho capito perché gliel'hanno chiesto, perché le hanno chiesto Bianconi, frasi così, ho capito perché le hanno chiesto di fare quel comunicato, se no lei non avrebbe fatto quel comunicato. Quale? Quello di oggi, ma io non ho parlato con nessuno oggi, ma cioè non l'ha chiamato, non ho parlato né con Matteoli né con Gaspari né con nessuno. Qui al mare. No, guardi che io non sono un manovrato, No, ma non è mica bisogna essere manovrato, ci sono anche un'altra carriera. Ma non bisogna, l'ho fatto il comunicato, l'ho dettato io al signor Sciotto, che è un addetto stampa, glielo può telefonare, glielo può chiedere. A me non mi dice nessuno quello che devo ma fare. Ma no, ma capito, non parlavo di qualcuno che le avesse detto fai il comunicato, ma ci sono delle cose che succedono alla politica. Ma no, succedono nei partiti che frequenta forse Telese, nei miei no. Adesso se la prende con Telese. Io non frequento partiti, frequento il suo da cronista. Scusi Bianconi, ma io non ho capito una cosa, ma secondo lei, per esempio, Napolitano, nel fare quelle esternazioni sul giornale di Feltri, aveva ragione o torto? Sulla campagna, campagna di delegittimazione nei confronti di Fini. Questo l'ho scritto. Mi dica. Fini ha fatto due cose. Fini è sacro come terza carica dello Stato, è vulnerabile come capofazione. Siccome si sta comportando da capofazione da un po', invece di stare fuori dall'acquario a osservare i pesci che si mangiano dentro l'acquario, si è tuffato nell'acquario. Ora ho capito, ho portato anche due esempi eclatanti. Ho capito, ma Napolitano, io questo l'ho capito, la sua posizione su Fini l'ho capito, ma Napolitano è una questione di opportunità, ha ritenuto di farlo e l'ha fatto, non c'è mica niente di male. Ha sbagliato secondo lei? Sì, no, non ha fatto quello che ritenevo opportuno di fare. Io ho detto chiaro che prima gli diceva di darsi una calmata e di fare più il presidente della Camera, meno il capofazione, faceva una cosa migliore, ma qui siamo sull'opinabile. Non penso io che abbia sbagliato o no, questo è una questione di opportunità sue, non sono mica io adesso lasciamo perdere Feltri. Bianconi, per concludere, io voglio capire una cosa. La mia impressione è che lei e qualcun altro magari pretenda dal Presidente della Repubblica una parola chiara, se non c'è più, non lo posso fare io, se non c'è più questa maggioranza, si va a votare. Sarebbe incostituzionale. Il Presidente quello che fa non lo può dire, ne lo può far intendere prima. Appunto, la sensazione di tutti, non solo mia, anche di tutti i commentatori, è che l'abbia fatto intendere prima. Cioè, secondo lei che cosa vuole fare Napolitano? Da quello che lei ha capito. Da quello che lei ha capito. No, Enzo mica, come si chiama, Uterra. Cioè, secondo lei sarebbe favorevole a, sarebbe favorevole ai governi? La mia sensazione personalissima è la seguente, però a tutti vado a vedere la soggettività. Personalissima, sì, personalissima. Che lui abbia fatto quella dichiarazione lasciando intendere quello che ha lasciato intendere, per dire alla maggioranza di durare, di non cadere, di fare di tutto per stare in sella, perché non siamo affatto sicuri di andare ad elezioni. Questo è il punto di quella dichiarazione, secondo me, che è un punto positivo sotto questo profilo. Ma siccome siamo in un mondo di squali, quello che è stato, che poteva essere anche un punto costruttivo, è stato preso da tutti come vuol dire, ha visto Napolitano. Beh, Napolitano ha detto anche che a novembre è impossibile votare, mentre in teoria uno potrebbe votare anche a novembre. Napolitano ha detto anche qui, ha fatto una sua considerazione, gli hanno già risposto adeguatamente. Sbagliata? Questa considerazione sbagliata secondo lei sull'impossibilità di votare a novembre? Non sono in grado di dire se queste cose, se il Presidente fa cose sbagliate o giuste, non è un uomo dell'agone politico, se l'avesse detto D'Alema avrebbe detto che è una grande sciocchezza, l'ha detto Napolitano, mi astengo da ogni giudizio. Sì. Vabbè, Bianconi, la ringrazio molto, lei è stato molto gentile a stare con noi, molto gentile. E lei a ospitarmi, grazie. Grazie. Telese, buona sera. Teresa, se la prendono tutti con te ogni tanto, come mai? Hai visto? Beh, però dai, siamo, è che noi siamo implacabili. Se uno dice traditore a Napolitano, ho fatto male a prendermi su Delio, ma che? L'hai detto? Difendilo. Esatto. Giornale Radio, Genchi, grazie, mi scusi se l'abbiamo fatto aspettare, ma posso? Qui Bianconi, sì, dopo, fra un quarto d'ora, se può, grazie. Eccoci qui, 19:15, 800 24 00 24, fra poco, non vi preoccupate, cominceremo a prendere le vostre telefonate. Il numero verde l'abbiamo detto? No, 800 24 0024 TG3. Napolitano, chi mi accusa di tradimento della Costituzione chieda l'impeachment o taccia, basta con le insinuazioni e le pressioni. Cicchito, massimo rispetto per il Colle, ma la via è obbligata, o la fiducia o il voto. Rossi Bindi, basta col massacro delle istituzioni. Forte scossa di terremoto, 4 e 5 della scala Richter nelle Eolie, frane e smottamenti a Lipari, caduta di massi sulla spiaggia affollata di turisti. Il sindaco Alemanno propone una tassa sui cortei a Roma, sono troppi e molto costosi ed è polemica, attacco alla libertà di manifestare. Storico sorpasso dell'economia cinese sul Giappone, Pechino è diventata la seconda potenza economica dopo gli Stati Uniti. Obama smentisce il generale Petraeus, non negoziabile il ritiro dall'Afghanistan nel 2011, la destra lo attacca sulla moschea Ground Zero. Con una telecamera nascosta siamo andati a cercare una casa per le vacanze, affitti alle stelle e rigorosamente in nero. In America un video ripropone un anoressico modello di bellezza femminile, abbiamo sentito una ragazza che decisamente lo rifiuta e ci spiega perché. E siamo qui con Sky TG24. Terremoto alle isole Eolie, panico fra i bagnanti, non ci sono feriti. Sfogo di Napolitano, se tradisco la Costituzione chiedano l'impeachment. La maggioranza smorza i toni, ma il PD parla di attacchi inaccettabili. Afghanistan, Obama corregge Petraeus, data del ritiro non negoziabile. L'economia cinese mette la freccia, storico sorpasso sul Giappone. 8 feriti in 2 sparatorie far west di Ferragosto a Bari e nel Casertano. Al via il Palio di Siena, un crollo uccide un uomo, ma la gara non si ferma. Troppi cortei, serve una tassa, polemiche per la proposta di Alemanno. Pietre ed escrementi contro Tila Tequila, la showgirl bersagliata in Illinois. Alla Ducati per trovare nuovi stimoli, videomessaggio di Rossi ai tifosi. Era mai successo di non trovare un cesso mi son cagato addosso a Monte Carlo. Merda non finire, puzza da impazzire, mi sono impiastrato tutto a Monte Carlo. C'era il vento lì contrario e nemmeno un urinario. Merda in mezzo ai piedi, merda nel gilet, c'era tanta merda a Monte Carlo. Allora, ci dicono che la canzone originale è stata scritta da Rudy Sand, cantante dello storico ristorante Biffi in Galleria Milano, e poi reinterpretata da El Pinza. È una canzone perfetta di questi tempi. Il disco A Monte Carlo era stato commercializzato accreditandolo a El Pinza, cabarettista appunto della vecchia Milano. Ci chiami qualcuno però, qualche autore, qualcuno che sia interessato di questa canzone. Intanto l'indimenticato Sgarbi della Zanzara di venerdì. Beh, io l'ho conosciuto dopo Gaucci e prima di Fini, come è giusto. Io sono un uomo che si pone nei momenti, diciamo, di tranquillità, no? Di transizione, insomma, io costituisco, come dire, il ponte verso il bene, e quindi dal male al bene, no? Da Gaucci a Fini, attraverso un uomo, come dire, buono e gentile come sono io. Voleva la tessera alata, la freccia alata. La Tugliani è venuta da me, così come era andata dalla Russa, con un unico obiettivo, da cui si capisce tutto: voleva la tessera della freccia alata. Il Ranieri con la Grace non si dà ormai. E poi l'indiscrezione su Vittorio Feltri, che poi viene edulcorata nella versione per il giornale. Feltri non aveva fatto le campagne contro Fini, incontra Fini e la Tugliani. Lui non riusciva a staccare gli occhi da lei, voleva la Tugliani, però non poteva far nulla perché lei era di Fini. Però evidentemente c'è una capacità seduttiva di lei che può prendere persino un uomo come Feltri. E però Feltri la Tugliani non l'avrebbe mai sposata. C'è Feltri, magari ceduto anche lui, perché mi ha detto mi piace molto questa ragazza, però non è che l'avrebbe sposata. Nello sposarla, viene, o nell'averla come donna, viene fuori il limite di Fini. Fini è ingenuo, non puoi avere rapporti stabili. Non puoi avere un rapporto stabile con una donna se sei presidente della Camera, quando questa donna può essere, come dire, una ragazza che ha legittime ambizioni, come tutte le ragazze, quelle che stavano intorno a Berlusconi, quelle che non puoi, infatti, ecco. Ma lui è lui l'ingenuo, è lui sopravvalutato, l'eroe che avete descritto, liberale, uomo straordinario. C'era pien di merda a Monte Carlo. Solo lui ci è cascato, Fini, ingenuo. È un ragazzo ingenuo che non può avere un ruolo importante se ci casca così. Ora, ti dico, la Russa non c'è cascato, io non ci sono cascato, ma non perché lei fosse Matari, non perché fosse una persona pericolosa, perché aveva quelle legittime ambizioni che sono quelle che aveva la Gregoracci con Sottile. E poi la frase che per me resta lì scolpita: un politico innamorato è un politico fottuto. Un politico non si deve mai innamorare. Prendere l'esempio da Colombo, Rumor, Cossiga, Andreotti, mai un Pannella, un politico innamorato è un politico fottuto. Insomma, ci sono delle ragazze, c'erano delle ragazze che giravano negli ambienti di centrodestra con legittime ambizioni. La Tugliani era una di queste. Che una ragazza onesta, pulita, bella e carina, più bella che intelligente come la Tugliani in senso tecnico, ha le legittime ambizioni che avevano la Troise, Verina Manna, e di fare un po' di carriera, no? Basta. Se la carriera poi, invece di farla, ma quanto tutto il mondo del cinema, trovi una persona che ti sposa, hai fatto carriera. Naturalmente dietro hai un pochino di cose, la freccia alata, il fratello, ma insomma cose che lui non ha neanche badato, perché lui, badando al mondo delle grandi idee, non si è accorto di questi dettagli. E qualcuno ci chiede questo brano come suoneria del cellulare, ma certamente si può, ma non vi possiamo dire noi come fare. 800 24 00 24, un po' di leghismo del fine settimana a Ponte di Legno. Oh, la frase che mi ha colpito di più, che è abbastanza rivelatrice, non è un mistero certamente, è quella di Bossi sulla legge elettorale. Perché Bossi considera quella che Calderoli chiamava porcata come una legge elettorale perfetta, e forse le due cose non sono affatto in contraddizione. Una legge che permette di presentare un programma elettorale all'elettorato prima delle elezioni, a differenza dell'altra legge. Una legge perfetta. Beh, non è che questa legge qua sia l'unica che permette di presentare un programma elettorale. In ogni caso, la Lega la considera perfetta. Sentiamo un Bossi classico di questi giorni, poi un Bossi che dice alle elezioni. Non riesco a capire come si possa andare avanti per qualche anno in un casino del genere. L'andare ad elezioni è naturale quando il governo non funziona più che si vada ad elezioni. E poi la coppia Bossi-Calderoli. Cosa ne pensi di un governo tecnico? Io l'ho detto prima, ho detto delle cose bruttissime, anche perché i governi tecnici sono tecnici fuori e sono politici dentro. E intanto che sono là si grattano tutto il fondo del barile. Cioè, sono come l'anguria, verde fuori ma rossa dentro. Esatto. È lo stesso Calderoli della porcata, eh? E l'anguria noi la sputiamo fuori, dice Calderoli. Perché li abbiamo già visti, solo che sono verdi fuori, rossi dentro, ma c'ha sti gandoli del cavolo che devi sempre sputare, e continueremo a sputarli fuori, perché non li vogliamo. Ancora vicende Rai dopo Ponte di Legno. E sono alcune parole pronunciate da Minzolini, anzi no, prima di farvi sentire Minzolini da Cortina, a me ha colpito sempre sul leghismo di cui vi stiamo parlando una frase che non è in audio di Bossi, riferita a qualche giornalista nelle lunghe nottate di Ponte di Legno. La frase è questa: io ho uomini che nessun altro ha, sono soldati, se gli dico di saltare dalla finestra loro saltano. E poi parla di Maroni, di Calderoli. Ecco, l'essenza della Lega è questa. Questa frase qui: io ho uomini, dice Bossi, che nessun altro ha, sono soldati, se gli dico di saltare dalla finestra loro saltano. Viva la Rai, se starai buono il tuo Mazinga vedrai, oppure no, dipende dal funzionario Rai. Viva la Rai, che cosa giusta e con la Rai. Minzolini, direttore del TG1 da Cortina, contro Santoro, non è giornalismo. Cioè, non è che, nel senso, per fare un programma impegnato basta parlare male di quello e ritorniamo al punto o l'altro. Cioè, bisogna fare qualcosa di più complesso. Invece c'è una grande pigrizia, se noi andiamo a vedere, c'è una pigrizia. Cioè, Santoro fa gli ascolti facendo quella cosa lì, cioè, che è tutto meno che giornalismo, tanto per essere chiari. Mi dispiace dirlo, a te piacerà, a me non piace, lo dico apertamente. Si rivolge a Enrico Mentana, e poi se la prende col Fatto, non è giornalismo, mi minacciano sul sito. Io mi ritrovo, ti faccio un esempio, ecco, parlando sempre del Fatto, che secondo me è un esempio di giornalismo che io non condivido, anzi, secondo me non è giornalismo. Però se io vado a vedere quello che mi viene scritto nel sito del Fatto, ci sono cose in cui ritornano, ti verremo a prendere sotto casa, ti verremo, sono cose che stanno al di là del mondo. Questa è una cosa che secondo me non dovrebbe appartenere. Fossero delle ragazze. Certo, al nostro mondo. Purtroppo siamo arrivati, diciamo, a un livello di faziosità. E poi una cosa su cui però concordo: in Italia c'è una libertà di stampa assoluta. Io credo che la cosa più folle che si possa dire in questo paese, l'ho detto anche in televisione, è che nel nostro paese ci sia una sorta di regime mediatico. Cioè, è pura folle, non ci sia la libertà di stampa. Da noi ce n'è tanta, bisogna avere il coraggio di dirle. Oppure no, dipende dal funzionario Rai. Concludiamo ancora con una cosina su Monte Carlo, L'era mai successo una catrua un cesso, mes un cagado a Monte Carlo. merda non finir, spusa da impazzir. Dov'è finita, insomma, questa cucina Scavolini acquistata a Castellucci Arredamenti sulla via Aurelia? A Monte Carlo oppure a Roma? Come sostengono ambienti finiani, non basterebbe una fotografia. Perché Fini non fa una fotografia? Ma lo dico senza che passi come una critica. Una piccola fotografia della cucina Scavolini in una casa romana di quelle appartenenti alla famiglia Tulliani barra Fini. Poi la spedisce ai giornali e così si risolve, chiuso. E si sputtana anche la campagna nel giornale, almeno sul fronte della cucina. Amore, è la gioia di tornare in una cucina Scavolini. Scavolini, la cucina più amata degli italiani. Urge la foto di una cucina Scavolini in una casa di Fini a Roma. A Monte Carlo. Borsa. Siamo qui alle 19.31 800 24 00 24. Ascoltatori, subito Franco da Pescara, buonasera. Poi Roberto, provincia di Modena, Massimiliano da Lodi, Cosimo, provincia di Taranto, Oreste da Ferrara. Chi è Franco? Grazie di avermi consentito di intervenire. Chi è Franco? Con chi sto parlando? Sì, Franco, esatto. Franco, dica. Dove si trova, Franco? Dunque, dove si trova? Mi dica dove si trova. Riflettere un attimo sul passo di Fini. Non mi ascolta. Dove si trova, Franco? Io sono sull'autostrada. Sull'autostrada dove? A che altezza? All'altezza fra Pedaso e Porto San Giorgio. Tra Pedaso e Porto San Giorgio. Sta tornando verso Pescara? No, sto andando sul fra Pedaso e Porto San Giorgio in direzione nord. Ah, in direzione nord. Benissimo. Ci dica. Dunque, le dicevo... E Fini praticamente conosce Berlusconi da 16 anni, ha fatto il partito dopo 14 anni e si è reso conto, stante la situazione di partito in coabitazione, diciamola così, che Berlusconi è Berlusconi, quindi non consente ad altri di decidere al suo posto, come è normale che sia, perché lui è il migliore, quindi è giusto che decida lui, che ci siamo impazziti. Adesso ci viene a raccontare tutte queste storie sulla questione immorale, cose ridicole, perché la questione morale non è opponibile a nessuno, già che ciascuno di noi ha i suoi scheletri. Lei dice dunque Berlusconi non può parlare di questione morale per quello che riguarda la vicenda di Fini, no, in Monte Carlo. Fini non può parlare di questione morale, già che la questione morale non è opponibile a nessuno. Ho capito, Franco, ho capito. Allora? E allora adesso praticamente la situazione di frazione che si è determinata è dovuta in parte alle pressioni interne al partito, agli uomini che erano intorno a Fini, e in massima parte io ritengo anche alla volontà di Fini di tornare ad essere il capo fazione, chiamiamolo così. In mezzo a tutto questo c'è il condimento della Tugliani. Ne tragga lei le logiche conseguenze. Eh no, le tragga, diciamo, lei le sue queste. Conseguenze quali sono? Che Bacco, tabacco e Venere riducono l'uomo in cenere. Oh, che bella massima. Me la ripeta, Bacco, tabacco e cenere. Traduca e però. Venere. E Venere, scusi. Dunque, sarebbero Bacco, sarebbe il vino, no? Cioè la... Esatto, tabacco sarebbe qualsiasi forma di allucinogeno. Di allucinogeno e Venere è la donna. Esatto. Beh, nel caso di Fini c'è solo la terza cosa. Sì, ma è più che sufficiente, visto il risultato. Dunque lei è della teoria Sgarbi? Senz'altro, ma poi Sgarbi non sbaglia, perché Sgarbi è un grande, è uno che ne capisce. Va bene, grazie Franco. Grazie a lei. Allora, di nuovo in collegamento con Gioacchino Genchi, con cui dovevamo concludere un discorso, sempre da casa sua, anzi dalla sua casa in campagna. Dove esattamente? Ce lo ripeta Genchi, noi siamo curiosi. Castelbuono. Allora, l'ha sentito Bianconi? Mi dica qualcosa, Genchi. Beh, guardi, io devo dire, forse sarà che da bambino, quando vedevo i film western, ti favo sempre per gli indiani, però vorrei spezzare una lancia. A favore di Bianconi? Eh sì, perché è chiaro che l'intervista, anche i termini probabilmente erano un po' impropri, il tradimento, eccetera, però sostanzialmente Io non accetto da democratico che tutte le volte che si parli del capo dello Stato si debba sollevare la caccia alle streghe. Questa volta è sceso addirittura Napolitano in campo con la sua dichiarazione. Cioè lei dice è legittimo con lanciamissili per ammazzare un moscerino. Anche questo è vero, le do ragione Genchi, il fatto che il capo dello Stato sì, ma sia che sia Bianconi oggi, ieri Grillo, Vantieri, Di Pietro, tutte le volte che si osi criticare il Presidente della Repubblica, ora sotto il profilo tecnico, se mi consente. Sì, no, volevo specificare solo una cosa, Genchi, che effettivamente anch'io penso che un comunicato così forte del Presidente della Repubblica per una intervista, pagina 5, taglio basso del giornale, di un vice capogruppo del PDL. Ma non è a Bianco, questo è il punto, non mi ha fatto concludere, perché secondo me il punto, la reazione del Quirinale. Dunque ha ragione Bianconi su questo. Ha voluto cogliere Bianconi perché è stato l'ultimo a uscire su questo argomento anche in maniera un po' insomma improvvisata, se vogliamo, anche dal punto di vista tecnico espressivo. Probabilmente non sarà uno studioso di diritto costituzionale, però la prassi costituzionale, non ho capito bene. Tu Presidente stai venendo meno a una prassi che tu hai instaurato. Ora, ma l'altro tradimento per violazione della Costituzione, certo, non della prassi, certo. Dello stesso. E poi quale prassi è quella secondo Bianconi, alla prassi, cioè. Esatto, poi ogni presidente fa la sua, l'ha fatto Pertini, l'ha fatto Cossiga, anche lui è stato oggetto di critiche, non so, è stato attaccato da tutte le parti, però quando si attaccava Cossiga non c'era questo clamore in Italia, io mi ricordo, insomma, cioè, lui stesso poi reagiva, replicava, c'era un dibattito vivace, c'era la politica che si muoveva, eravamo alla fine della Prima Repubblica, però se vogliamo l'unico momento democratico sì. Si aveva quando c'era un'esternazione del Presidente. Però d'altronde Genchi, quando Bianconi dice il Presidente l'ha fatta fuori dal vaso, io l'ho fatta fuori dal vaso e il Presidente l'ha fatta ancora di più, in realtà poi insomma si scopre che lui questo comunicato di oggi, queste precisazioni l'ha fatta perché le ha dovute io fare. Non voglio togliere nulla a Bianconi, per carità, che magari adesso è stato pure costretto dai suoi a venire a fare marcia indietro, però io ritengo, avendo seguito con attenzione in questi giorni che sono un po' più sfaccendato l'evolversi di questa vicenda, se lei guarda tutte le dichiarazioni dei politici, gli articoli dei giornali, il punto massimo dell'attacco al capo dello Stato in maniera proprio scientifica, da un punto di vista dell'argomentazione, è il fondo del 15 agosto di Feltri sul giornale, lettera al Presidente che preferisce il ribaltone al popolo. Sì. Ecco, io ritengo che il Presidente della Repubblica probabilmente ha inteso in ultimo rispondere a un deputato, un parlamentare che ha un ruolo peraltro nel gruppo del PDL. Più che rispondere Camera, al direttore del giornale. Poteva rispondere a Feltri, ma che tra l'altro questa cosa del ribaltone Feltri sta rappresentando, cioè, che se lei lo unisce alle dichiarazioni di Briguglio di oggi a Klaus, che sono uscite nell'intervista al blog di Klaus Davi, pericolo che un componente del Copasir, peraltro autorevolissimo, che io ho avuto al mio cospetto perché erano tra quelli che si è divertito a interrogarmi sulle sue vicende, sì. Io ritengo che siano stati proprio questi dossier di cui si paventa nei confronti di Napolitano, quindi se li mettiamo insieme tutti gli eventi. Cos'è che si paventa nei confronti di Napolitano? Non saprei scrivere un giornale, però mi pregio di saperli leggere. Che cos'è che si paventa nei confronti di Napolitano? Eh no, questo l'ha detto Briguglio, parlava proprio di un'ipotesi di dossieraggio nei confronti del Presidente della Repubblica. Su questo no, forse mi è sfuggito nel pomeriggio. Guarda, oltre 20 agenzie che seguono all'intervista di Briguglio, sono sei pezzi. Sei Briguglio, dossieraggio no, ma intimidazioni sì, però non ho letto. Su YouTube, sì, c'è un passaggio. Ah sì, ecco qua, è vero, ho solo risposto a una domanda dell'intervistatore che mi chiedeva se fosse possibile un dossieraggio persino contro Napolitano, ho risposto che per me era possibile, non capisco perché ci sono esponenti del PDL che si sono sentiti punti sul vivo. Beh sì, insomma, anche questo può avere contribuito, non c'è dubbio. Sì, però guardi, se lei lo ritiene possibile una cosa del genere, un dossieraggio nei confronti tutte le, sì, perché sostanzialmente la prassi della nomina del governo, però nella Costituzione non sta scritto queste regole che si stanno formando col bipolarismo, la Costituzione è fatta. No, ma poi tra l'altro, scusi Genchi, 7, 8, 10 certo Feltri quando scrive che il Presidente preferisce i ribaltoni al popolo, in realtà riprende alcune dichiarazioni che ha fatto Napolitano a Marzio Breda del Corriere della Sera il giorno dopo l'intervista all'Unità, perché poi Breda doveva recuperare da questo smacco e dunque c'è il Corriere della Sera che spinge per strappare appare al capo, quello che significa il Corriere della Sera. Esatto, al capo dello Stato qualche dichiarazione in più, in cui Napolitano in realtà non è che dica esplicitamente che ci può essere la possibilità di un'alta maggioranza parlamentare o di un governo tecnico, dice una cosa abbastanza scontata, cioè che è in Parlamento che si decidono le cose, ma sappiamo tutti che un governo tecnico in questa situazione è praticamente impossibile. Vabbè, comunque. Ma impossibile non perché vietato dalla Costituzione, è impossibile perché la politica, perché giustamente Napolitano osserva, certo, il punto principale è il primato della politica, perché la nostra Costituzione prevede i partiti, prevede quindi una risposta del Parlamento, così come i parlamentari, ciascuno non è vincolato al proprio partito perché è libero, il divieto di mandato imperativo e tutto quello che sappiamo, così è libero di determinarsi nel decidere, certo, di dare il voto di fiducia o no, l'articolo 92 della Costituzione. Quindi l'attacco al Presidente della Repubblica, una volta che il Presidente della Repubblica sta facendo veramente il suo mestiere, sta interpretando realmente quella che è la Carta Costituzionale, secondo lei l'attacco è a Feltri, più della prassi, in realtà non è che sia un attacco sbagliato, non è un attacco a Bianconi, ma a Feltri, diciamo, all'editoriale del giornale. Se io ipotizzi una scena di guerra, ecco, spostiamola, sì, sul piano militare, e lei vede che sparano con il missile di maggiore gettata, lei ritiene che stiano sparando in direzione, la direzione più pericolosa, per colpire il bersaglio più pericoloso. Se io devo considerare la contraerea, quindi tutto ciò che si è sparato dall'altra parte, il pezzo del 15 agosto che arriva proprio in un momento topico del culmine della polemica istituzionale è il pezzo di Feltri, che obiettivamente, insomma, certamente non gli devono insegnare a scrivere a Feltri, certo, e non gli devono nemmeno spiegare la Costituzione, perché probabilmente Feltri la conosce un po' meglio di Bianconi e quindi si è potuto esprimere anche con una terminologia un po' più chiara, un po' più aderente a quello che è il dettato e politico e giuridico della Carta Costituzionale, e fa una serie di considerazioni di natura obiettiva sotto il profilo politico, però sotto il profilo della legalità, della regola costituzionale, in Parlamento si possono formare tutte le maggioranze che si vogliono. Quello che invece risulta difficile, secondo me, è mettere insieme tutto ciò che rimane di anti-berlusconiano, che è unito nel nome dell'accecamento, dell'odio nei confronti di Berlusconi, probabilmente ne avranno tutte le ragioni per odiarlo, ma che difficilmente però li porta a potersi amare tanto quanto basta per fare un governo. Genchi, grazie. Abbiamo scoperto un Genchi, come dire, analista politico, mentre su Chiappe d'Oro e su Tremonti non è che ci ha voluto dire qualcosa in più, Genchi. Vabbè, d'altra parte prendiamo quello che ci arriva noi, non è che stiamo lì a insistere troppo. Su Tremonti lei ha fatto già un ottimo lavoro, esistono, sì, sì, è riuscito ad avere l'esclusiva di Bianconi ritorno, sì, dopo le dichiarazioni quello sì, perché abbiamo colto un Bianconi sotto un profilo, è riuscito a far parlare in modo naturale a Bianconi e non facendogli recitare la poesia che quello è sempre il nostro obiettivo. Infatti abbiamo subito lanciato questa cosa del Bianconi che dice: se io ho pisciato fuori dal vaso, il vaso di Napolitano è più grande, e anche lui ha pisciato fuori dal vaso. Grazie Genchi, buona serata. 19:42, 800 24 00 24, dove andiamo? Roberto, provincia di Modena, buonasera. Pronto, buonasera Cruciani. Dica. Grazie di questo contatto. Ma parliamo di cose serie, della canzone Monte Carlo. Che Di cose serie. Sì, perché il resto, diciamo, sono sciocchezze di fronte, sì, a queste canzoni meravigliose che, sì, fotografano la situazione. La realtà, non so se l'hanno informata che la canzone Monte Carlo nasce come canzone seria melodica italiana di Johnny Dorelli. E fa, sì, quando i baci miei tu ritroverai, puoi trovarmi amore a Monte Carlo. Eccola qua, caro Roberto, noi siamo pronti a tutto. Quando i baci miei tu rimpiangerai, puoi tornar sceri a Monte Carlo. Ma io non so però, Roberto, se l'origine di tutto è questa. Che dice lei? Sì, parte da lì. Cioè, questa è la prima? Sì, poi dopo fanno una cover ironica in milanese, ma in italiano però non si affronta, diciamo la verità. In italiano diventa un po' troppo rude, penso. In milanese è bella, in milanese è fantastico. Cioè, lei dice in italiano quella che abbiamo sentito è un po' troppo sguaiata. Sì, sì, assume dei caratteri, ma mi lasci soltanto dire un'altra cosa. Sì. Sgarbi, fra le cose meravigliose che dice nell'intervista, dice la Tugliani, una curva, mi sembrava una curva ben segnalata, che mi sembra veramente travolgente, cioè grandissimo. Cioè una curva ben segnalata, e uno per derapare da questa curva, insomma, per uscire fuori da questa curva ci deve mettere del suo. È meraviglioso. Poi la lascio con un'altra battuta velocissima. Si ricordi che Montezemolo non scenderà in campo, ma scenderà in pista, questo è importante. E cosa vuole dire con questo? La Ferrari, le cose. Non questa scende in campo come non Berlusconi. È male, non è male. Vabbè. L'abbraccio tanto. La potrei consigliare per gli amici di Spinoza, però insomma, lei non ha bisogno sicuramente. Grazie. Massimiliano da Lodi, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera Cruciani, buonasera Telese. Adesso fra poco vediamo di ricollegarci con Telese, se becchiamo un ospite. Vabbè, allora me lo so. È andato a fare le cose sue. Io intanto sto tornando alle vacanze. Lei non è andato, immagino. Andrò la settimana prossima, per una settimana. Allora, lo invidio. Perché lei dice? Perché vado quando non ci va più nessuno? No, perché ho finito. Solo per questo. Alla fine vinci chi comincia, non chi finisce. Sempre. Certo. Ascolti, no, io volevo semplicemente fare una brevissima considerazione riguardo alla questione Fini, riguardo alla questione Verdini, no? Sì. Io l'altro ieri pomeriggio ascoltavo la vostra radio e ho sentito che dava la notizia di Verdini indagato dagli ispettori di Banca Italia, firma di Draghi riguardo i falsi in bilancio di una cifra enorme. No, beh, non è proprio così, Massimiliano. Insomma, c'è stato il commissariamento della sua banca, la relazione di Banca Italia, irregolarità. Poi Verdini si difenderà, comunque le accuse sono molto pesanti, non c'è dubbio. Esatto. Poi tra l'altro non è la prima di accuse, perché negli ultimi mesi gliene sono piovute addosso diverse di queste accuse abbastanza gravi. Allora la sera ho guardato il TG1 di Minzolini, prima sentivo che stava facendo ascoltare una sua considerazione, e non se ne è sentita notizia. Allora il giorno dopo ho provato a guardare il TG5 e altrettanto non ne ha parlato. Di che cosa? Di questa storia di Verdini? Di Verdini. Sì, me l'hanno segnalato, il TG1 non ne ha parlato, non lo so. Io sono rimasto scioccato, perché ho notato con quanta invece insistenza hanno voluto evidenziare i mass media, le televisioni, riguardo alla questione Fini, ne hanno straparlato. Beh, insomma, io l'ho ritenuto un fatto, secondo me, grave. Lei ha detto prima una cosa giusta, secondo me, che c'è libertà a livello di stampa, però una volta Berlusconi ha detto che i giornali, un italiano su 20 legge i giornali, quindi vuol dire che gli altri 19 assumono informazioni solo dalle televisioni. Guardi, io non lo so se il TG1 non ha dato la notizia di Verdini, la notizia in realtà che non è una notizia, perché è la relazione, l'ufficializzazione di una relazione della Banca d'Italia sul commissariamento della banca di Verdini. Non lo so, francamente. Non lo so, magari hanno data non nei titoli ma all'interno. Non faccio un'analisi di tutti i telegiornali. Era sicuramente sulle prime pagine dei giornali domenica. Dunque stiamo parlando del TG1 di domenica, dunque, no? Del TG1 di ieri, Va bene. Nulla. No, ma me l'hanno fatto notare diversi ascoltatori. Io non durante questo weekend non è che sono stato molto a vedere i telegiornali, però ho letto delle mail che mi riferivano di un TG1 reticente sulla vicenda di Verdini. Non lo so. Sì, assolutamente. E il TG5 il giorno dopo. Va bene, vabbè, grazie. Oreste da Ferrara. Buonasera. Buonasera, Oreste, dica. Intanto le volevo fare complimenti per la trasmissione, lei è un mio mito. Volevo intervenire a proposito di quello che ha detto il signor Genchi. Mi stupisco di lei, Cruciani. Lei non ha detto niente quando Genchi ha lasciato passare questa teoria. Quale teoria? Che Berlusconi sarebbe l'utilizzatore finale anche del disegno di questa rete informativa. Perché, sì, lui ha detto in questo momento è l'utilizzatore finale. Sì, poi però potrebbe essere colpito anche lui dal dossieraggio. Questo, ecco, dice. Mi permetterei di dire... Dopodiché, come vuoi contestare queste cose, Oreste? Come si possono contestare? Mi scusi. Mi scusi un attimo, Oreste. In questo modo, dicendo che anche su Berlusconi esiste il dossieraggio, ma indirettamente l'ha detto Genchi. Ma è Berlusconi. Berlusconi l'uomo più dossierato d'Italia. Sì, Oreste, ma guardi che lo stesso Genchi dice in questo momento, in questa fase sì, ci sono assolutamente una teoria totalmente campata in aria, cioè basa la sua teoria sul risultato. Ma allora cioè, è assolutamente inconsistente. Scusi un attimo, Oreste, però io non voglio difendere le cose che dice Genchi, anche perché su molte cose non sono d'accordo. Però lui dice, in alcuni momenti l'utilizzatore finale, il fruitore finale, sempre secondo lui, di questi dossieraggi, di queste carte, di queste veline, è Berlusconi. In altri momenti Berlusconi cosa. Sì, ma certo, infatti questo modo di ragionare, ma si lo può so utilizzare in qualsiasi situazione. Oreste, lo so benissimo. Non è certo una prova, e infatti secondo me non ci sono prove, almeno non sono congetture, cose rispettabili naturalmente, però ecco, non ci sono prove. Le volevo fare questo appunto, secondo me si poteva controbattere in maniera un po' più vivace, ecco questa Oreste, ma qui noi siamo montata, ma no, ma qui d'arte da queste persone. No, Oreste, lei probabilmente ha ragione, ma qui non c'è la diatriba Cruciani-Telese versus Genchi. Genchi dice delle cose, noi, io in questo caso, ma anche Telese, possiamo porre dei dubbi dicendo vabbè, lei parla di network informativo, parla di cose, ma non ci sono le prove, quali sono i nomi, eccetera eccetera. Siamo rimasti piuttosto perplessi. Basta questo, non è che bisogna dire per forza Genchi cosa sta dicendo. No, ma dopo passano questi messaggi, cioè, la disinformazione secondo me si crea anche così, lasciando passare le cose. Mi permetto solo di dire questo, ecco. No, certo, per carità. Io apprezzo il suo modo di condurre in maniera veramente totale, quindi... No, ma Oreste, il punto è che spesso di fronte ad alcune affermazioni bisogna anche, come dire, anche rimanere in silenzio, non dare corda a queste affermazioni, sospirare, domandarsi le cose, è indice di una certa perplessità, magari difficilmente percepibile alcune volte. Dunque lei ha ragione, perché non risponde così, perché non gli ribadisce Berlusconi ed perché ma, poi... no, ma adesso l'ho detto io, quindi per me siamo a posto. Grazie Bruno, provincia di Catanzaro, buonasera. Buonasera Cruciani, io intanto mi scuso, forse mi sente male perché sono in villaggio vacanze. Senta, volevo innanzitutto complimentarmi perché in Italia abbiamo purtroppo pochi giornalisti e molti giornalai, riferendomi a qualcosa che ho sentito prima da parte di un altro ascoltatore. Comunque non era questo quello di cui volevo parlarle. Mi riferivo in pratica all'intervista che ho sentito in parte all'onorevole il senatore, non so, del PDL. Bianconi, sì. Il quale un po', ma non è un, mi creda, non è un discorso di parte, generalizzo un po' perché è così sostanzialmente. I nostri politici purtroppo non hanno il coraggio delle loro opinioni e, come si dice dalla mia parte, si lancia il pietro, si lancia la pietra e si nasconde la mano. Perché io penso che ognuno può avere delle idee, giuste o sbagliate che siano, però ha ancora, per fortuna in Italia, si ha la possibilità di esprimerle. Se un uomo politico che le fa, se ne assumono le responsabilità politiche, però insomma non mi pare giusto questa, diciamo così, barzelletta che dura da un bel po' di tempo, quando fanno delle dichiarazioni poi sono sempre i giornali che scrivono male, i giornalisti che capiscono male, probabilmente hanno tutti bisogno di... No, ma lei ha ragione su questo, secondo me Bianconi doveva... Cioè, minzolinate... ma lasci perdere le minzolinate, no, Bruno, no, il punto è uno solo. Secondo me l'onorevole Bianconi non se lo doveva prendere col giornale, con i titoli, in realtà poi non è che l'ha fatto più di tanto. In alcuni momenti ha detto, ma sai, i titoli, poi il giornale è un giornale di parte, ho capito, ma lei ha dato un'intervista al giornale, mica ha dato un'intervista al Corriere della Sera, per cui... certamente ha cercato di inquadrare la sua intervista in un contesto... inesistente, anche perché poi, ripeto, non è che abbia smentito i contenuti dell'intervista, dice quella frase là era da mettere in fondo e non in testa, quella è una decisione che però spetta a chi ha fatto l'intervista. La ringrazio, collegamento con il senatore Riccardo Villari, buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Come sta, dove si trova, senatore? Io bene, sono bene, sto bene, così come spero di lei e degli ascoltatori. Molto bene, dove si trova, in vacanza? Sono in qualche giorno di vacanza a Capri. A Capri. Abbiamo la fortuna di averla vicina. Ma quando si può ce la godiamo. Nella sua barca si trova, senatore Villari? No, nella mia barca. la sua famosa barca, ormai con noi è diventata famosissima. Famosa? Beh, con noi fu paragonata anche alla barca di Briatore, per carità. Sarebbe un modesto tender di quella barca. Stavo scherzando. Certo. Lei ha un tenderino, che cos'ha? No. La barca, insomma, un motoscafo, quindi. No, un motoscafo, non un tenderino, scusi. Un motoscafo, mentre... non mi ricordo, ne parlammo una volta, no? Dove, in che porto è ancorata questa barca? Nel porto di Capri. A Capri. Senta, e la sua dieta? La mia dieta regge, devo dire. Regge? Regge, nonostante le tentazioni, delle serate con amici. Anche d'estate regge, anche in però, vacanza? Però, insomma, regge, lo vediamo. Sì, insomma, alla fine di queste 2 settimane di vacanza la cosa porteremo in porto. Ah. Ci può dire da quanti chili è passato a quanti chili è passato? Non ci interessa molto questa cosa. Guardi, io dico i numeri. Insomma, io mi sono levato una quindicina di chili. Una quindicina di chili? Sì, in molti mesi, comunque. No, certo, vabbè, iniziando da quella famosa dieta con il sondino, no? Mi applicai questo sondino che mi diede la prima botta, diciamo, anche psicologica. Certo. Mi levo i primi 7-8 chili, 7 chili. E poi con un'abitudine alimentare modificata rispetto agli eccessi precedenti, piano piano nel tempo ho progressivamente perso fino a 18, devo dire, chili. Fino a 18, poi ha recuperato 3 chili. Poi mi sono stabilizzato sui 15, insomma, diciamo che reggo. Beh, insomma, poi perdere... attività fisica, qualche bella camminata. Insomma, perdere 15 chili, insomma, non è una cosa semplice. No, io insomma voglio dire... come tutti quelli che purtroppo non riescono a stabilizzarsi come abitudini alimentari, sono solito fare queste escursioni, chiamiamole così. Ah, però era un po' che non perdevo tanti chili. Per cui c'è il pericolo che si torni come sopra. Ahimè, infatti non canto vittoria, però insomma diciamo che... Senta, ma ancora su questo tema, una piccola curiosità, ma il suo regime alimentare, adesso lasciamo perdere le vacanze e gli eccessi, diciamo in tempo di dieta, come si in che cosa consiste? Guardi, io da medico le posso dire... in generale, e non sembri una banalità, che non è che ci sono tantissimi segreti, perché oggettivamente riducendo le quantità e non facendo grandi abusi, diciamo, il regime alimentare consente di rimanere in peso forma, questa è la verità. Quando si eccede si mette. Quindi adesso io ho ridotto notevolmente le quantità e ho abolito alcuni alcol. Se non sono un grande bevitore, non bevo super alcolici. I dolci, vabbè. Io sono un grande mangiatore di pane, se interessa. Ah, e anch'io. Ecco, devo abolire quello e devo dire che l'ho ridimensionato notevolmente, pochi latticini, pochi formaggi, il cui condimenti il giusto, insomma nel tempo. È il pane quello che frega, è il pane. E il pane quando si abusa non perdona. Io impazzisco per il pane, non riesco a fare a meno. I cosiddetti panisti. Lei è un panista. I panisti sono una categoria difficile da debellare in quanto a... Lo so. Però ognuno c'è dove c'è cu... Perché il pane, io mangerei solo pane, continuamente pane. Chi la ascolta la comprende. Lo so. Senta, senatore Villari, ma lei questa adesione al gruppo del PDL l'ha già ratificato oppure no? Formalmente no. Io formalmente sono ancora... Nel gruppo misto. Nel quale, lo ricordo... è sempre bene ricordarlo, fui messo mano militari, nel senso che io fui espulso dal gruppo del PD, e contro quella espulsione allora, parliamo di più di un anno fa, mi sono opposto a quell'espulsione. Sì, vabbè, l'espulsione era il frutto di una sua posizione sulla commissione di vigilanza Rai, però certo fu considerata da molti eccessiva quell'espulsione. Non c'è, no? Devo dire, adesso lo dico senza, giusto per... Sì. Lo statuto del PD non prevede l'espulsione. Un atto arbitrario e ingiusto che presupponeva un mio accordo col centrodestra, come Di Pietro andava raccontando, calunniandomi, come fatti hanno dimostrato, nel senso che lui diceva che c'era un accordo. Vabbè, poi adesso lei sta per aderire al gruppo del PDL, dunque Di Pietro... No, voglio dire, l'accordo presuppone, cioè non è l'adesione al gruppo l'accordo, perché quello è libera, cioè dovrebbe presupporre... Un accordo all'epoca, lei dice. Che c'è qualche interesse, cioè c'è qualche ritorno. Sì, no, me lo ricordo. I fatti hanno dimostrato che il ritorno non c'era, poteva essere la mia una scelta politica discutibile, ma da qui a chiamare corrotto una persona, voglio dire, beh, che di questi tempi si abusa. Ma lo sa, insomma, sì. Però, insomma, voglio dire, quindi io mi opposo, istituzioni. Dunque è espulso dal PD e poi al gruppo misto, ma adesso quella, diciamo, la formalizzazione della sua adesione al gruppo del PD al Senato quando avverrà? Allora guardi, devo dire che la mia scelta politica, dal momento che io mi considero un parlamentare del territorio, perché io lavoro in campagna e cerco di lavorare sul territorio, io la scelta politica l'ho fatta, ma nell'indifferenza generale, alle scorse regionali, quando ho costituito una lista insieme al candidato presidente del centrodestra Caldoro. E questo lo sappiamo, sì. Quindi già ho fatto una scelta allora. Sì. Il perimetro del centrodestra in Campania è molto ampio perché comprende anche l'UDC, comprende tutti. Sì, diciamo, appunto, dico. Tranne PD e IDV ci stanno tutti. Però in Senato è diverso. In Senato, ora è chiaro che questa condizione a livello di discorso, e qual è? Che termine? Che discorso termine? Che non tiene conto, io ti do questo, tu mi dai quello. Ma io ho necessità, da moderato, che per la sua parte nel centro-sinistra, come ho detto, sono stato espulso, continuerò a costruire da quest'altra parte, senza moderato quale sono. Ho capito. Dunque, io non ho mai, la cosa che devo dire la verità, ogni tanto tocca, ma lo capisco che poi insomma bisogna essere anche sintetici. Io non ho mai preso voti da una parte e li ho portati dall'altra, non sono mai stato uno di quelli che con grande disinvoltura passa da una parte all'altra. Io ho fatto un percorso politico che ha visto sempre il partito dal quale provenivo confluire in quello che veniva. L'Udeur è andato nella Margherita, l'Udeur non c'è più, la Margherita è andata nel PD e la Margherita non c'è più. Sì. A quel punto sono stato espulso. Ho fatto la campagna elettorale come MPA nel centrodestra, cioè ho in qualche maniera... Lei scusi, ricapitoliamo, lei era nell'Udeur, giusto? Io sono stato eletto nel 2001 nell'Udeur, parlamentare, diciamo, come Ulivo. Ulivo, Udeur. Ulivo, quota Udeur. Quota Udeur. Poi è passato... Poi Udeur è andato nella Margherita. Nella Margherita. Dunque lei è passato... Io sono passato nella Margherita con il partito. Poi a un certo punto la Margherita ha aderito al Partito Democratico. La Margherita è confluita nel Partito Democratico. E io sono confluito nel PD. Per adesso tutto centrosinistra, tutto centrosinistra, per adesso. Centrosinistra. Poi è espulso. Poi è espulso dal PD. È espulso dal PD nel gruppo misto 8-9 mesi. Poi MPA. Dopodiché in campagna elettorale regionale. In Campania. In Campania per sostenere Caldoro. Sì. Lombardo mi ha dato la possibilità di costruire la lista, diciamo, dell'MPA, quindi è stato un accordo, diciamo, più elettorale. Ho capito, ma adesso l'MPA è contro Berlusconi, lei sta per aderire al gruppo del PD. Io non so se io sono andato via prima, devo dire, sono andato via un mese fa. Ah, perché lei è andato via un mese fa dall'MPA? Io poi, finita l'esperienza elettorale, alla quale ho solo dato perché non ero un candidato. No, va bene. Ho scritto una lettera al Lombardo, che è stata anche, diciamo, in qualche maniera pubblicizzata. Ho visto che la vicenda siciliana stava diventando predominante, per cui per noi parlamentari. Lei che si faceva in campagna, dicevo, l'MPA. Cioè, no, a me interessava il progetto del partito. Certo. Però Lombardo, per le vicende che conosciamo, in buona sostanza dava un connotato sempre più siciliano. Io lo capisco dal suo punto di vista, che lo scontro è molto alto. Insomma, lei ha lasciato l'MPA e adesso è adesso rimasto nel gruppo misto. E adesso quando è a settembre? A settembre. Voglio dire, la scelta la vogliamo chiamare scelta di campo. Quando la scelta, scelta di campo è stata fatta quando io alle regionali ho votato il candidato del di Caldoro. Ma quando è che l'adesione formale al gruppo adesso PD? Alla ripresa dell'attività parlamentare. Sì. Concluderemo questo ragionamento che stiamo facendo a partire dalla Campania e poi insieme a Quagliariello, che è il vice capogruppo vicario al Senato. Perché lei avrà un incarico in Campania? No, incarichi non credo proprio. Non credo proprio. Comunque, a settembre aderisce al gruppo del PDL, questa è la sostanza. Probabilmente quella sarà la parabola. Un'altra domanda le devo fare dopo i titoli dei telegiornali. Resti lì finché tiene a Capri il senatore Riccardo Villari, che a settembre passerà al gruppo del Senato del PDL. 23 minuti, andiamo subito a sentire i titoli della 7. Tanta paura per il terremoto di magnitudo 4,5 della scala Richter che ha colpito nel pomeriggio le isole Eolie, epicentro vicino Lipari, dove sono crollati interi costoni rocciosi sfiorando barche e bagnanti. Se tradisco la Costituzione chiedono l'impeachment, altrimenti sono gratuite insinuazioni di indebite pressioni. Napolitano con una dura nota risponde al deputato PDL Bianconi, che aveva accusato il capo dello Stato di non rispettare la carta. Bossi attacca Fini e lo accusa di volere soldi da sprecare al sud, per questo il presidente della Camera è un nemico di Tremonti, assicura il leader del Carroccio, che boccia ogni alternativa al voto e dice sulla tempistica decide Napolitano. Nuova protesta degli immigrati nel centro di identificazione ed espulsione di Via Corelli a Milano. Una ventina di persone hanno tentato la fuga, 6 agenti di polizia e 5 nordafricani sono rimasti feriti, un algerino è riuscito a scappare. L'economia cinese mette la freccia ed opera un sorpasso storico, scavalcando il Giappone e diventando la seconda potenza al mondo dopo gli Stati Uniti. Il dato si riferisce al trimestre aprile-giugno. Per gli analisti l'allungo verrà confermato su base annuale. Cercavo nuovi stimoli e la Ducati era l'occasione giusta dopo 7 anni trascorsi con la Yamaha. Valentino Rossi saluta i tifosi, spiega i motivi della scelta di un videomessaggio: lasciare la casa giapponese per tentare di vincere il mondiale con una moto italiana. Allora, alle 20:05 minuti, 800 24 00 24, questa è la Zanzara, in collegamento da Capri il senatore Riccardo Villari, gruppo misto, prossimamente PDL. Senta Villari, ma lei a Capri, che è a casa, sta da una casa a Campi, sì. Ha una casa, beh, insomma, non è male, Non mi lamento assolutamente. Infatti, credo. Ci mancherebbe altro. Ma dove ce l'hai esattamente, se si possa, se non è una cosa di privacy, in una zona al così? Al Castiglione. Al Castiglione di Capri. Località, questa collina, chiamiamola così. Senta, ma andare al mare a Capri, come mi dicono, io non ci sono mai andato a Capri, confesso, è una grave mancanza, ma è una cosa facile, oppure le barche, gli scogli, una cosa complicata? Devo dire che è facile, perché ci sono anche dei bellissimi stabilimenti che garantiscono un bagno assolutamente eccezionale lo stesso, quindi la barca non è indispensabile, anche se devo dire la verità, Capri è più godibile Da fermo, diciamo, sulla terra ferma. Questi stabilimenti, alcuni particolarmente belli, la canzone del mare su tutti, voglio dire, che è famosa, ma poi ce ne sono altri che offrono una possibilità di godere il mare caprese. Ma troppi... Devo dire, poi Capri non ha insenature molto profonde, a differenza di altre isole come Ischia, quindi non è che offre un ridosso e un mare assolutamente calmo. Quindi alla fine devo dire che insomma non è tanto difficile andare a mare a Capri. Senta Villari, ma troppi VIP? O no? No, devo dire che questo è il periodo in cui se ne vedono di meno. Perché devi sapere che l'abitudine di quelli che amano quest'isola è di rimanerci proprio le settimane di Ferragosto, perché tutti vanno via, sì, e poi ritornano dopo il 20-25. Quindi è il periodo più godibile questo, in cui c'è meno confusione. C'è, diciamo, la solita confusione caprese dovuta a quelli che vengono a fare la toccata e fuga quotidiana. Però insomma, diciamo, i VIP cosiddetti non ce ne sono tanti, si sta bene insomma. Senta Villari, ma la sua previsione, lei è un conoscitore della politica da tanto tempo, abbiamo sentito tutti questi passaggi nei vari gruppi parlamentari, ma 10 senatori di Futura Libertà, no? Ce ne saranno altri, ci sarà un rientro, la sua previsione al Senato, per quello che lei può conoscere, qual è? Guarda, devo dire con franchezza adesso, senza voler sfuggire alla domanda, che è una parte politica che io conosco molto poco, quindi ho difficoltà, non ne conosco le dinamiche interne, quindi ho difficoltà a dire cosa accade, cosa accadrà, le previsioni ho difficoltà a farle, poi anche quel pizzico di saggezza che spero di avere mi consiglio di non mettere mai le mani in casa d'altri. Quindi sinceramente non lo so, anche perché questa vicenda insomma, è accaduta alla fine prima della pausa estiva, quindi diciamo, non è che ho ascoltato umori, non ho potuto respirare quel clima, quell'atmosfera, quindi in verità non lo so. Sicuramente è una situazione traumatica, ma del resto le devo fare una considerazione. Mi dico. Noi assistiamo a una fase in cui due cofondatori, come Rutelli e Fini, uno del PD e l'altro del PDL, in qualche modo vengono dati, leggendo i giornali, vengono anche insieme, no? In come una posizione comune. Potrebbero ricerca di una posizione comune. Sì. Cioè, voglio dire, c'è talmente tanto e forse anche troppo dinamismo in questa fase, perché gli schemi tradizionali non sono più quelli di riferimento, tutto è cambiato. Quindi alla fine non mi stupisco di niente, ecco, voglio dire. Se quei senatori diventano molti di più, addirittura qualcuno rientra. Non ci si può stupire di nulla, c'è un grande caos, No, perché c'è tutto, insomma, i valori a cui oggi ci si riferisce, per stare da una parte e dall'altra. Devo dire la verità, sarebbe interessante discuterne, perché tanto... Quali sono? Non esistono questi... Io faccio una riflessione per parte mia. Sì. Quello che ha fratturato in maniera irreparabile per parte mia il rapporto con il PD... Il garantismo. È stato il garantismo. Garantismo significa riconoscere la buona fede, riconoscere i diritti. Vabbè, lei si è arrabbiato. Non usare diciamo, una posizione, vorrei dire, giustizialista, in qualche modo colpevolista, come stato in quel caso, colpevolista senza prove. Perché lì, però, in quel posto, caro Villa, io l'ho seguita bene quella vicenda, lei lo sa, insomma, l'avevano messo i deputati e i senatori, insomma, parlamentari del PDL. Io cosa posso farci? Del PDL no, lei non poteva fare nulla, però bisogna capire anche sono voti, sa, d'accordo, cioè, voglio dire, quando si vota una commissione bicamerale, il voto è segreto. Io posso, lo dico senza mezzi termini, ritengo che io che 21 di quei 23 voti sono venuti da quella parte, ma lo ritengo, la certezza io non la posso avere perché il voto è segreto. Sì, vabbè, però comunque si sapeva. È un voto, diciamo, democratico e regolare. Ah, non c'è dubbio, sì. Ora che me lo abbiano dato, non c'è dubbio. Io l'abbia contrattato, invece i dubbi ci sono. Ah, su quello, su che quello, non l'ho contrattato. Quello era la come dire, non l'accusa. Non è poco, sa. No, cioè, dopo 8 mesi, io ricordo la vicenda, con gli appelli del Presidente della Repubblica che invitava a costituire la commissione, forse la condizione ideale era che Veltroni si svegliasse dal sonno e assumesse una posizione più. Vabbè, insomma, queste ormai sono cose andate. Senta, bravo, per concludere, caro Villari, le faccio ascoltare una cosa, perché lei da napoletano mi deve dire se è effettivamente una bella performance oppure no. Come sa, se non lo sa, glielo dico, abbiamo fatto una gara di canto tra deputati e senatori, ci sono stati anche degli articoli sui giornali. Non l'ho fatto cantare. No, non l'ho fatto cantare perché non sapevo che lei era bravo, se è bravo. Lo ricordo per il futuro. Allora, come? Lo ricordi per il futuro, dico. Ah, assolutamente. Alfonso Andre, lei lo conosce, un suo. Come no? Senta un po'. Tu sei fatta una veste scollata, no capille, quei nastri e quei rosa. Stiva mizza tre o quattro chantuse e parlavo francese e così fui l'audrire che t'ha già incontrata, fui l'audrire a tuleta ignorazzi t'ha già voluta bene a te, tu m'hai voluta bene. Caro Villari, non è male, non è male Andria. Assolutamente, un po' fiorito, ma insomma non male. Come, un po'? È un termine così. Sfiorito? Fiorito. Ah, fiorito, cioè che vuol dire? Me lo dico. Un po' la ricerca del gorgheggio, non devo dire, però non male. Fiorito, qua abbiamo una napoletana qui di fronte a noi, che vuol dire? No, sorry? Devo dire, non male assolutamente. Al di là del vetro abbiamo una colorato, cioè che significa? Fiorito, colorato? Con i fronzoli, cioè un po' costruito, lei dice, costruito. Insomma, vabbè, è buono, comunque è buono. Ma lei non la sa fare Reginella, no? Reginella non è il mio cavallo di battaglia. E qual è il suo per la prossima volta? Ormai non la coinvolgo, adesso non la voglio coinvolgere. Indifferentemente. Sì? Una grande canzone. È questa, Indifferentemente, poi c'è Volare, e poi c'è Carmela, canzone di Sergio Bruni. Capolavoro. Come no? Sergio Bruni, che è anche l'autore di Reginella. Che anche poi c'è un'altra canzone di Sergio Bruni, poco conosciuta, ma meravigliosa, che si chiama Na Bruna. Na Bruna. Poi quando sarà? Quando sarà faremo. Quando sarà. Buona Capri! Buone vacanze a lei, buon grazie. Lavoro. 20 e 13, PDL allora, Senato, grazie. settembre, grazie. Villari. Grazie. Siamo qui 20:13 800 24 00 24, Valentino da Brindisi, buonasera. Pronto? Buonasera Valentino. Buonasera e grazie per avermi chiamato. Senta, dottor Crugiani, volevo dire la mia, io ho 71 anni, ormai guardo la politica con un certo distacco, ma purtroppo con tantissima amarezza. In merito all'ultima querelle, la casa di Monte Carlo, eccetera, eccetera. Qual è la sua amarezza, Valentino? Qual è non la è sua... che l'hanno scoperto l'altro giorno, no? Evidentemente lo sapevano chissà da quanto tempo e lo tenevano nascosto nel cassetto. Sia chiara una cosa, io non pendo né per l'uno né per l'altro. Ma chi l'ha tenuto nel cassetto, Valentino? Però voglio dire questo, c'è da aspettarsi ancora altre, cioè è un po' come dire... Guardi che io so questo, fai il bravo, stai bello fermo, calmo, perché sennò al momento opportuno tiro fuori. E devo pensare che anche dall'altra parte, teoricamente, potrebbero avere altre di questi schizzi di fango. Insomma, a questo si è ridotta la politica italiana. E poi, Valentino, abbiamo sentito anche Genchi. La lancia a favore dell'onorevole Fini, ma non per questo caso qua della casa, per carità, non entro in merito, ci sta la giustizia, la magistratura che farà il suo corso. Perlomeno Fini ha avuto il buon senso, il rispetto di dire la magistratura farà quello che crede e io non temo i giudici comunisti, fra virgolette. Cioè ha avuto un rispetto della magistratura che tanti altri politici invece non hanno. Ho capito, va bene, grazie Valentino. Poi, ho capito benissimo. Scusi dottor Cruciani, un'ultima cosa. Cosa? Non le dico poi alcuni politici che per me non sono nemmeno degni di essere chiamati chi sono? Tali. Chi sono? Tipo Stracquadanio, Barani dell'altro giorno. Non mi tocchi il predellino, che le ha fatto? Vabbè. Comunque grazie, buonasera. Grazie a lei, Sergio, provincia grazie, di Macerata. Buonasera Sergio. Buonasera, mi sente? La sento. Sì, guardi, siccome il momento è molto difficile, no? In che senso è difficile? Io sono politico, cioè ah, un clima politico, che sarà mai? Anche all'interno della stessa maggioranza, un clima d'odio che difficilmente è spiegabile per un cittadino qualsiasi. In questo clima pensavo che le alte cariche dello Stato contribuissero a tacere e a calmare gli animi. Io, con tutto il rispetto per il Presidente della Repubblica, vorrei dire che sono rimasto un po' sconcertato da due interviste, una all'Unità di pochi giorni fa e una al Corriere della Sera. Mi racconta fra poco, Sergio, mi racconta fra poco perché è rimasto sconcertato da queste uscite di Napolitano. Intanto traffico. Strade in diretta. Ancora traffico intenso lungo la carreggiata nord della A14 Adriatica. Automobilisti incolonnati in Romagna tra Pesaro e Rimini Nord verso Bologna. Al sud sono ancora molti i veicoli in viaggio lungo la Salerno-Reggio Calabria in direzione Salerno. Rallentamenti con code a tratti all'altezza dell'allacciamento con la 30 Caserta-Salerno e poi anche tra Battipaglia e Ponte Cagnano. Chi viaggia poi verso Napoli trova rallentamenti in entrata nel capoluogo tra Cava dei Tirreni e la barriera di Nocera Nord. In Sicilia traffico intenso con code alla barriera di Catania sulla A18 provenendo da Messina. In direzione Catania si formano code anche in uscita da Cireale, sempre per traffico intenso. Ed è tutto per il momento, ritorniamo tra circa mezz'ora. La Zanzara. Siamo qui con Sergio dalla provincia di Macerata, che era rimasto colpito da queste uscite di Napoletano, prima l'Unità e poi... Guardi, devo dire, con tutto il rispetto, perché penso che in generale si comporta molto bene, però dare due interviste a distanza di pochi giorni, in un clima di, come dico, accesso di odio, prima all'Unità, poi al Corriere della Sera, se era così, poveretto che sta male, lo avrebbero denunciato, attaccato, esternazioni, picconate. Ecco, io una volta sapevo che i presidenti della Repubblica parlano con atti al Parlamento, con documenti inviati al Parlamento, ma forse non è più così. Poi volevo ridire l'ultima cosa e la ringrazio. A proposito delle campagne di stampa, io ho un'età, lei è giovane e molti mi intervengono sono giovani, non ricordano, ma le campagne di stampa, anche accese, anche feroci, io me le ricordo contro Leone, una persona onesta che poi fu costretta a dimettersi. Vabbè, anche contro Cossiga in realtà. E dall'altra parte un attacco feroce da destra all'onorevole Mancino, calabrese, accusato di cose che poi risultarono non vere. Quindi non mi meraviglio delle campagne di stampa. Comunque inviterei tutti noi cittadini, voi giornalisti e i politici, anche soprattutto quelli grandi, alla prudenza, magari al silenzio e alla calma. Beh, al silenzio per noi sarebbe finita, la ringrazio. Non per voi, no, la ringrazio, al silenzio dei politici, per carità, non sia mai, se non parlassero più sarebbe la fine, ma non succederà. Grazie Sergio. Guardi, dell'intervista di Napolitano io posso dire solo una cosa: a me, al di là del fatto che si possa vedere dietro le parole un significato politico, governo tecnico, scioglimento delle camere, elezioni sì, elezioni no, l'unica cosa francamente criticabile è l'uscita nell'intervista all'Unità sulla campagna di delegittimazione nei confronti del Presidente della Camera. Quella francamente la trovo una cosa assurda, perché le campagne di stampa sono campagne di stampa ed è legittimo fare campagne di stampa anche su vicende che riguardano cariche istituzionali. Grazie. Augusto Aterni, buonasera. Ciao, buonasera Cruciani. Dica. Io stavo facendo così giorni passati un'osservazione e la volevo condividere con lei, no? E riguarda il giornale no, diretto da Vittorio Feltri. No, io mi ricordo tempo fa sul caso di Veronica Berlusconi, quando si separò dal marito, sì, presidente del Consiglio, il giornale partì con tutta una serie di, diciamo così, di attacchi a Veronica Berlusconi. Veramente era libero, eh? Ah, scusa, sì, è vero, era libero. Era libero, comunque. Famoso titolo, famoso titolo, Veronica Velina Ingrata. Era Vittorio Feltri che... sì, ho capito, diciamo, Augusto. Era di... e riuscì a tirare fuori, diciamo, dei dettagli particolari della vicenda che mi fecero particolarmente scalpore, perché mi chiedevo come facevano ad averceli, no, quei dettagli anche sul passato. Adesso Confini sta tornando di nuovo questa azione così, diciamo, di intelligence da parte del giornale ad attivarsi per trovare questi particolari. Però mi scusi, Augusto, mi scusi un attimo. Al di là del fatto che le notizie possono arrivare da certe fonti, eccetera, eccetera, cosa in realtà abbastanza, come dire, marginale, va bene per le ricostruzioni, da chi vengono le carte, da chi vengono passate, da chi arrivano, va tutto bene e magari è importante saperlo. Però il punto è uno solo. C'è sostanza in queste cose? Per il momento pare di sì. Lasciamo perdere la vicenda della cucina. C'è sostanza, cioè ci sono domande poste, serie poste al Presidente della Camera e risposte poco esaustive, o no? Ma no, io, ecco, diciamo che adesso quello, il fatto, diciamo, se c'è una verità dietro queste cose, che riesce, questi fatti, questi dati, che riesce a trovare filtri, no, nel suo giornale, e questo, vabbè, poi sarà la magistratura. Ma la cosa che mi domandavo è che poi lei le redazioni la bazzicate, è che se i giornalisti fanno un'attività di intelligence così sottile, insomma. Vabbè, in alcuni casi si possono avere fonti importanti, in altri casi c'è qualcuno che ti passa in maniera così dettagliata il giornale. Ecco, io volevo sottolineare, non è che ci riesce solo il giornale, Augusto, in altre occasioni, al contrario, in situazioni esattamente opposte, la fattura dei mobili con quello che ci vuole, la fattura dei mobili, basta qualcuno all'interno del negozio di arredamento che te lo passa, insomma. Infatti, cioè, come si fa ad arrivare a pensare questo? O sono contattati oppure loro vanno in giro a cercare. Non credo che un giornalista faccia l'investigatore, ecco. In alcuni casi invece è così. La ringrazio. Cosimo, provincia di Taranto, buonasera. Cusciani? Sì, Cosimo, dica. Sì, buonasera. Diciamo che lei questa sera ci ha ricascato a proposito dell'intervento di Speranza. Dell'intervento di Oreste, che lui imputava a questa campagna di disinformazione, dicendo diciamo, attaccava questa campagna di disinformazione dicendo: vabbè, ma se nessuno li ferma questi qua, la menzogna va avanti. Diciamo che in questi anni abbiamo assistito a delle performance della destra eccezionali. Si va dal colpo di stato delle elezioni del 2006, alla magistratura comunista, all'internazionale del giornalismo che attacca Berlusconi, alla crisi che ha alle spalle, cioè di menzogne che sono state fatte passare e nessuno ha contrastato efficacemente. E zeppa la destra, voglio dire, non è che allora voglio dire, lui ha detto questa cosa e lei non ha saputo appunto contrastare anche queste teorie. Vabbè. Diciamo, il fatto che lei è ricascato nella nuova polemica di Feltri, perché lei già ci cascò una volta, mi meraviglia, perché io stimo di lei veramente, credo nella sua buona fede, lo ribadisco. Ma non ho capito, Cosimo, dove, in che cosa sarei cascato io? Già è cascato la prima volta sulla vicenda Boffo, che lei dava quasi per scontato che qualcosa c'era di assolutamente risolto, no, di assolutamente io no. Mi ricordo le trasmissioni, quella polemica assurda. Vabbè, comunque poi Boffo, non è così, comunque andiamo avanti. Vabbè, ci sono dei file delle trasmissioni, si possono scaricare e sentire. Ma adesso è ricascato di nuovo con questa faccenda di Fini. Voglio dire, Feltri può avere a disposizione un monte di milioni di euro per pagare eventuali querele, non so poi da dove li trovo. Allora... quindi il coraggio per portare avanti queste campagne ce l'ha, magari qualcuno lo spinge a fare queste campagne giornalistiche. Allora io dico soltanto una cosa, attendiamo, no? Invece di sparare a zero e di dire che Fini si deve dimettere, questa è la sua. Ma chi l'ha detto? Ma io non ho detto. Venerdì ha detto. Sì, Cosimo, ma non l'ho detto per la vicenda di Montecarlo, ho detto per altre questioni. Se lei sta ascoltando. Alla fine questa campagna elettorale, no, campagna elettorale, questa campagna di deregistrazione giornalistica è stata efficace. Alla fine. Capito, Cosimo, ma io l'ho settimane. Detto per altri motivi che non ha nulla a che fare con Montecarlo. Devo dare spazio ad altri ascoltatori, però, mi scusi. Devo dare spazio ad altri ascoltatori. Michele da Trapani. Pronto? Sì, dica. Buonasera. Buonasera. Senta, io sono disgustato dall'intervento di Bianconi. Mi è sembrato scadente. In che senso scadente? Scadente. L'ho sentito tutto in diretta, l'intervento che Bianconi ha fatto con lei in trasmissione. Sì, sì. Tremendamente scadente, cioè parlare di vasi. Perché se incominciamo ognuno a guardare i vasi degli altri, non la finiamo più, finiremo per calpestare solo contenuto di vasi. E ho una vaga paura che sostanzialmente questo percorso avviato così, mi permette in termini di vasi, è un percorso ormai in discesa. Tutti quanti non fanno altro che svuotare quello che c'è dentro i vasi, lasciarlo scorrere per terra e il mondo della politica si riduce solo a questo. Comunque, per farci capire dagli ascoltatori, Michele, Bianconi ha detto: se io l'ho fatta fuori dal vaso, c'è uno che ha un vaso più grande e l'ha fatta fuori pure lui, esatto, riferendosi a Napolitano. Esatto, chiaramente. E ragionare. Sì, tra l'altro, dopo una nota diciamo, sì, conciliante. Sì, però la nota aveva un certo spessore, o comunque un certo. Ma sa, le persone poi in diretta si lasciano andare, eh. Però guardi, io sono l'uomo della strada. Ho capito. A me forse è concesso parlare di vasi. A me invece queste cose piacciono. No. A me invece queste cose piacciono. Un rappresentante del popolo sovrano che legge. Ho capito. Invece queste cose a me piacciono perché sono indice di quello che uno pensa per davvero, non le cose affidate ai comunicati stampa. Alle note, dobbiamo chiudere. Ci sentiamo domani alle 18. La Zanzara. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire! Va bene. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare.